A parte vieni fatto... qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ma tu dici? Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Caro Giuseppe, caro Palenzo, buonasera. No, non ho detto gioia. Disse l'uccellino al cacciatore, son l'unico rimasto in tutto il mondo. Hanno con un proiettore nel Duomo di Messina hanno proiettato delle minchie finte. Esterminio. Ma questo è il numero uno da Catania. Un signore da Catania ieri che ha chiamato ha detto: sul Duomo di Messina quelli del Gay Pride hanno proiettato delle minchie finte. Ma dai, siamo veramente al super top qui, al super top. Al Duomo di Messina hanno proiettato delle minchie finte. Voglio denunciare i gay. Quelli del Gay Pride. Ma ti giuro, le sì, minchie... l'ho sentito, c'ero ieri. Cosa pazzesca. Ma cos'è che ha detto poi? Sempre questo delle minchie finte, qualcos'altro ha detto? È la libertà. Sì, ha detto qualcos'altro, dai, le minchie finte. Hai ucciso il suo. Andrebbero tutti denunciati dai carabinieri. Tutti. Andrebbero tutti denunciati dai carabinieri. Andrebbero denunziati. Ma veramente vuole denunciare questi qua? Sì, per me è una cosa normalissima. Ma scusi, altre volte ha denunciato? Ma secondo lei, per esempio, è normale? Qualche anno fa a Messina hanno proiettato con un proiettore delle minchie finte nella chiesa di Messina. Cielo è deserto. Ma scusi, quando vai in spiaggia non vedi i culi uguale? Ma non è la stessa cosa. Se lei cammina, dico, in centro con il culo di fuori, dico, andrebbe denunciato, penso. Vabbè, ma sì, se vado normalmente, sì, se c'è un carro allegorico, se c'è una processione, no, però. Perché cambia, dico, una strada è sempre una strada. Beh, ho capito, però c'è una manifestazione che fa un po' della, se vuole, della, dell'esibizionismo. No, del. Non c'è il carnevale. Le minchie finte proiettate sul Duomo di Messina. Vabbè. Riprendiamo un attimo, no? Riprendiamo un attimo le redini di questa trasmissione. Sì. Ecco, le redini di questa trasmissione. Sì. E in realtà questa canzone che sentite, Popolo della Zanzara, Popolo della Radio, non è casuale come al solito. Si sta parlando degli uccellini. Perché ti propongo questa roba, caro Parenzo? Perché vi propongo questa roba? Perché oggi alla Camera dei Deputati, tenetevi forte, amici miei, cosa, di cosa si è discusso secondo te? Dei problemi dell'economia italiana? Mi auguro. È discusso della, non so, dell'Europa? Si è discusso degli errori dei magistrati? Anche quello, ovviamente. Punto. Ma si è parlato a un certo punto di uccelli. Ti giuro. Buon anno l'ha fatto. No, amico, ma buon anno in questo caso non c'entra nulla. Non c'entra niente. C'era un dibattito. Sulle peppole. No, sugli uccelli vivi. Quelli che stanno lì praticamente per avvistare altri uccelli, per dare il segnale ai cacciatori. No, gli uccelli. Ti giuro, era così. Non conosco queste materie. Io nemmeno. Io nemmeno. Senti, per esempio, i signori del Movimento 5 Stelle, particolarmente attenti a questo argomento. L'attività di cattura e cessione dei richiami vivi deve essere svolta secondo le modalità previste dall'articolo 19 bis della stessa 157, che disciplina le deroghe, come previsto anche dalla direttiva 147 del 2009, la cosiddetta direttiva Uccelli. La direttiva Uccelli. Cioè, voi avete capito qualche volta a cosa servono i deputati, no? A parlare della direttiva Uccelli dell'Unione Europea sul ruolo degli uccelli vivi. Divento pazzo! Chiudete tutto! Lupo, Movimento 5 Stelle, senti. Vi prego di immaginare di stare chiusi dentro quella gabbia con una... semplicemente una gamba spezzata, di morire lì dentro, di attirare i vostri stessi simili per farli uccidere. Io vi chiedo per un attimo di immaginarvi le condizioni crudeli ed atrocità che vivono questi esseri viventi come lo siamo noi. Allora io, cara deputata Lupo, a me degli uccelli rinchiusi lì per chiamare altri uccelli non me ne frega nulla. Non me ne frega niente. Vi giuro, animalisti, adesso ammazzatevi, distruggetemi, non me ne frega niente. Abolite la caccia se riuscite a farlo. Ma gli uccelli vivi non devono arrivare in Parlamento. Non si deve arrivare a parlare di uccelli vivi dentro le gabbie che fanno i segnali per i cacciatori. No, non se ne deve parlare. Tacconi, 5 Stelle. Vorrei solo ricordare che se una pratica è secolare non è detto che sia corretta, perché una pratica secolare era anche quella di fare il fuoco con le pietre. Se il genere umano non avesse voluto fare dei passi avanti saremmo ancora lì a sfregare le pietre. Quindi facciamo veramente un esame di coscienza, proviamo anche a pensare ai nostri amici animali. Proviamo a pensare ai nostri amici animali, no, ai nostri amici animali, alla Camera dei Deputati, alla Camera dei Deputati. Ah, la Camera dei Deputati. Per sterminare il verde sulla terra. Oh, a proposito di una vicenda che abbiamo sollevato ieri qui alla Zanzara, caro Parenzo, il caso clamoroso di una di un uomo che si è fatto tagliare l'uccello praticamente e vuole restare in matrimonio, vuole restare sposato con la sua compagna. Donna che ama, la certo. Domanda è molto semplice: si può essere moglie della propria moglie? Cioè si può rimanere? Beh, ma non banalizzerei. La posizione così. Della Zanzara qual è? La posizione ma della certo Zanzara? Che sì. Si può. Noi ma siamo certo. Libertini, libertari, eccetera, eccetera. Dunque, senza problemi, il mitico Marione Adinolfi, ieri da noi, la sì, pensava in sì. modo diverso. Sentiamo, sentiamo. Simpatico reazionario. Non ho capito niente, ragazzi, però almeno se uno si taglia il pisello, dopo non pretenda di avere il matrimonio da lo stesso sesso, utilizzandolo come cavallo di Troia per risolvere un problema legale importante. Allora, tagli l'uccello, amen. Che cazzo vuoi? Dai, su. Ti tagli il pisello, ma che pretendi? Che il matrimonio poi deve essere annullato? Beh, cari amici, secondo noi no. Se due si vogliono bene, anche se uno si taglia l'uccello e diventa donna, dunque ci sono due donne, perché il matrimonio non deve continuare, no? Certo. Per quale motivo? Ancora devo dirti. Vabbè, cosa è successo ieri durante la consegna dei premi i David di... Questo è importante. I due signori qui presenti, sì. conduttori, diciamo, animatori di questa roba che si chiama La Zanzara. Beh, conduttori, no? Sì, conduttori. Ogni tanto, conduttori. Lo dice anche lui ogni tanto, scusa. Sono stati citati... Su Rai 1. Sì, tanto, su Rai 1, adesso su Rai 1, sì. Alla su Rai... serata dei David, bel nome, di Donatello. Bel nome. Davide di Donatello, sì, esatto. Da uno dei, anche lì, conduttore, insomma, uno di quelli che stava lì sul palco, insomma. Sì, signor Ruffini, sì, conduceva. In modo straordinario. Sì, che devo dire che... Era fuori da quella cerimonia, c'è cioè la cerimonia ufficiale, quella sì, tutti sì, impettiti. Che di solito una rottura di coglioni allora, mai vista, no? Di quale solito... sarà il prossimo capolavoro esatto. al quale lei sta lavorando? Ha fatto, secondo me, apposta il coglione. Tutto. Ha Ma fatto certo, il coglione evidente, apposta, facendo, dicendo a uno a un certo punto, come vengono distribuiti i film a Sorrentino? Sì, a Sorrentino, era lì, a uno dei premiati, voglio dire. E quello ha detto, beh sì, ma adesso è troppo lungo spiegare. Sono state interpretate come gaffe, siccome una conduzione pazzesca, cioè che ha rotto tutti gli schemi. Ma intanto la citazione dei cialtroni qui, E la distribuzione per un film è molto importante, no? Giusto, perché alla fine se fai una cosa però non c'è nessuno che dà modo di farla vedere, ecco, come funziona, se tu dovessi spiegarla agli amici che ci seguono a casa? Mi hanno detto di essere breve, funziona che il distributore mette i film al cinema e la gente li va a vedere. Beh, mi sembra veramente il top, come direbbe Cruciani a Parenzo, grazie molto, davvero Paolo, in bocca al lupo e grazie a Andreotti Pinti che mette la prova al cinema e la gente la va a vedere. L'equilibrio della natura, tu che sempre predichi l'amore. Un grande applauso, una grande emozione, tutto per lei. Devo dire la verità, signora, lei è... 5 mesi, signora Loren. Signora Loren, è sempre una toppa meravigliosa, lei veramente, se lo lasci dire, è una osa fantastica, sono felicissimo di averla qua. Beh, La topa Sofia Loren. Paolo Ruffini è con noi, buonasera. Siamo al top, siamo al assoluto. Top, al top, siamo assoluto. L'emozione in prima serata provando. La parola top. Aspetta, beh, lui dice, sta dicendo che sta provando un'altra emozione, non di essere no, di avere premiato. Mi porta la sega del Davide di Donatella e la Zanzara, a me che mi emoziona. Io vi seguo, vorrei unirmi. C'è un esercito buono di Parenzo. L'esercito di Parenzo, Parenzo lo disconosce, allora, dunque bisogna stare attenti, lo disconosce. E più io devo subito dire a David, a parte io ieri volevo fare un'altra grande citazione, volevo dire il David di Donatello, però cioè era troppo palese. E poi volevo dire che purtroppo sono anche un fan di Riccardo da Roma un po', volevo dichiarare subito, perché bravo. Mi sembra veramente doveroso. Amici del fans club Riccardo da Roma, presidente ad honorem Paolo Ruffini, scrivetelo subito. Abbiamo creato un mondo terribile, radiofonico terribile. Allora Paolo, però siccome non dobbiamo sbordarci addosso, ti chiedo subito questa cosa: ma tu ti sei pentito di questa cosa della topa a Sofia Loren oppure no? Dimmelo su. Ma perché, scusa, dovrei sentirmi? Ma per me è un complimento eccezionale, ma dire no, a una donna che è una topa meravigliosa, per me è un complimento, non credo che sia nemmeno un'offesa, deprecabile. Ma come fai a dire che la topa è come dici una bella ragazza, no? Ma sì, ma dietro le quinte poi cosa è successo? Cosa ti hanno detto? Ma hai esagerato? La stessa Sofia Loren, a parte la faccia che ha fatto in diretta, d'accordo. La stessa Sofia Loren ha detto due cose e dice, giustamente, se lei è una donna e dice che si mette in gioco, non credo che se la sia presa, insomma, se è vero che... Ma questo ce lo devi dire tu se l'è presa o no, non lo so, non mi ha detto nulla, perché poi è stata tutta una diretta, è stata tutta una filata, non mi hanno detto nulla, la cosa vera è quella che un po' hai detto te, che è sempre stata una manifestazione, che è stata sempre una rottura di coglioni inenarrabile, e noi si è cercato di tirarla un pochino su, di animarla, ma qualsiasi cosa... Ma era studiata la topa? Era studiata la topa o no? Ma no, però non è una gaffe, insomma, le gaffe sono quando, insomma, dici vai a un funerale e dici congratulazioni invece di condoglianze, quelle sono gaffe. Oppure vai lì a bussare sulla bara e dici tutto bene, dorme sempre. Quelle sono gaffe, a parte che le gaffe, ho fatto una gaffe iniziale, però non mi ha cacato nessuno per quello, quando mi sono dimenticato il regista all'inizio sulle nomination, nessuno, però il resto non erano gaffe, erano cose che di fronte comunque un pubblico... Non me ne vorranno, ma un pubblico di rompicoglioni spocchioso come quello che avevo davanti io, qualsiasi cosa. Ma è chiaro che se lì, quando tu dici su Rai 1 a Sofia Loren, che insomma è invitata da Vespa sempre, simbolo del cinema italiano, della bellezza, uno arriva un toscanaccio, un ragazzo, insomma, che dice: ma lei è una topa meravigliosa, io posso capire lo stupore, ma è un super complimento. Ma chi lo dice più a Sofia Loren? Ma l'avesse detto la Littizzetto non avrebbero detto nulla, perché sapete meglio di me che c'è bisogno sempre di lamentarsi, c'è bisogno sempre di dire che tutto fa schifo, cose incredibili, il cano ma della sono meravigliose, ma sono meravigliose, io ho ritwittato tutti gli insulti straordinari, delle cose pazzesche, ma Facebook e Twitter sono una fucina devi dire questo Paolo, se ti va, cara Sofia Loren, io volevo solo farti un complimento. Mica detto che è la moglie. No, sei una bella topa, sei una bella fica. Questo ti posso dire. Ma sono cose vere. Ma poi è vero, ragazzi. Ma io tra Sofia Loren, scusa, Parenzo, io lo sai che sono un po' MILF, no? Da questo punto di vista, adoro le MILF. Ma Granny, se Granny, Sofia Loren è Granny. È Granny, è vero, hai ragione. È Granny. No, allora, tu sei per tutte le età, che sei la gioia delle racchie, delle vecchie. Da questo punto di vista, sei molto di sinistra, no? Da questo punto di vista, io sono gerontofilo. Guarda, io mi sono imbarzottito davvero, Cioè con quelle giovani non ce la fai, dici? No, ce la fa a bestia. No, sta buono, vai, lascia fa. Però Cruciani, lei è di bocca buona ormai. Lei è di bocca buona. Oltretutto mi sono fatto anche prendere per il culo. Cioè più di così non so, mi sono prostrato. Hai fatto il selfie, qualsiasi cosa. È una polemica completamente inutile. Guarda, secondo me davvero. Ma io, anzi, credo che insomma, rispetto anche a tanti altri conduttori che ci sono. Cioè voglio dire, inevitabilmente se hanno scelto me si devono occupare me, non so come dirti. Ma ti chiameranno ancora secondo te? Ma non qualche dubbio viene. No, ma io so Gianca Leone che ha detto signor Leone. Signor Leone, cosa? Ma non lo so, ma il signor Leone c'ha in casa c'ha Daniele Piombi, Giletti, ci sono dei conduttori istituzionali. Cioè, se volevano uno che non diceva topa alla cosa, potevano invitare gli altri. Ma vabbè. Cioè, oltretutto c'ho un contratto con Mediaset, io non, cioè nel senso non c'ho, ho capito, io sono andato, è stata una cosa meravigliosa, mi hai fatto un favore stessa, quasi con, ma non ci, no, quello no, io sono stato contento di farlo. C'è sempre meno figa da voi in trasmissione. Lo so, hai ragione, però è pure la radio, è un ascoltatore, avrà pure ragione, ma è anche la radio questa qua, è vero che c'è la webcam e tutto. A proposito, Parenzo, io ho ancora per il quarto giorno consecutivo questa sciarpa al collo, questa meravigliosa sciarpa dall'odore fenomenale, dall'odore fantastico. Ma non ti ha scritto la signorina che te l'ha regalata? Purtroppo no, purtroppo no. Sarà fidanzata? Non lo so, boh. Vedrai che ti troverai il fidanzato sotto Viale Monterosa con un bel bastone nodoso ad aspettarti, tu e la tua sciarpa azzurra, e sarà lì con questo bastone in mano. Ma e tu dirà, lo sai che è lei il signor Cruciani? Boom. E tu? Boom. Tu lo sai che dopo quattro giorni ancora profuma? È una cosa incredibile. No, ragazzi, basta con sta storia. Dai, ma perché mi mettete le sigle? Cioè, qui. Basta, ma ha più di 70 anni la signorina o no? No, giovane. Siamo con Paolo Ruffini. Allora, io voglio capire la cosa della distribuzione dei film con Sorrentino. Ma era preparata? Ma sì, quella sì, ma sai, sono domande che, ti ripeto, cioè è gente che non è, che qualsiasi domanda tu gli faccia è uguale, soprattutto se non sei uno come loro, ma sei uno come me che comunque insomma e faccio film di altro tipo, film commerciali, quindi sono meno accettato, sono meno condiviso. Cioè il problema del cinema italiano, di quel tipo di cinema italiano, che credo che sia un problema comune al giornalismo, alla politica, è la totale mancanza di autoironia. Cioè è gente che scorregge in una stanza e se l'annusa e si fa complimenti, capito? Quindi è una bella metafora questa, sì, è vero. Sì, cioè nel senso che capito, cioè, a me fondamentalmente se mi dici che il mio film fa cacare, a me mi importa una sega, perché anzi forse ti fa pure piacere. No, però nel senso non è che costruisco un ponte, cioè non faccio il medico, l'ingegnere, faccio un film, cioè se ti garba bene, se non ti piace Senti, ma non è così fondamentale, capito? Nella vita. Poi è vero che io cerco di migliorare la vita delle persone, nel senso cerco di farle ridere, e ci sono dei film importanti che hanno dei riconoscimenti, che fanno cultura, che fanno arte, per l'amor di Dio, però non ti puoi sentire sto cazzo, capito? Perché sei un regista o perché lì sul palco c'erano molte persone che si sentivano sto cazzo. Amici miei. Per esempio il signor Virzì, che tra l'altro ha criticato molto il neo sindaco. Virzì ha fatto dei film bellissimi. Sì, ma che c'entra quello? Uno può fare dei film bellissimi e sentirsi sto cazzo. Si sente sto cazzo o no, signor Virzì? Sì. No. Virzì è livornese, ma noi a Livorno ci sarà un'aria un po' diversa, però tanti altri sì. Cioè, forse Sorrentino, forse, non lo so. Sorrentino un pochino sì, forse. Si sente sto cazzo, sì. Forse un pochino sì. Sì, Livorno. La sensazione è un pochino quella, però per esempio a Mastandrea, che tanti insomma dicono ora sembra ci sia la lite su Twitter tra Ruffini e Mastandrea. Mastandrea è stato l'unico che è stato al gioco mio, cioè la gag di Mastandrea non era preparata, ma sembrava una gag di Colorado, insomma, ma fondamentalmente molti dicono sembra Colorado, non è la presentazione dei David, chi se ne frega. Vabbè, allora una cosa di politica canale, però te la dite voi, cambia canale. Cioè, Lille Greg l'anno scorso ci avevano provato forse a fare una cosa più ironica, però anche loro erano stati demoliti perché erano seri, quindi non va mai bene nulla, cioè, ma noi sai cosa, si dice a Livorno, noi ci sta una mutanda per tutti i culi, nel senso, cioè, ci va bene tutto, sono come voi, cioè è come la Zanzara è bella perché c'è accoglienza, capito? La Zanzara è democratica e c'è accoglienza, e noi uguale a Livorno si accoglie. Senti, a proposito, tu hai votato a Livorno? No. Purtroppo no. Chi avresti votato? Ho sentito il sindaco da voi quando l'avete invitato, insomma. Che oggi ha proposto mezzi pubblici gratis per tutti, già bisogna vedere dove i soldi, però saremo pure al top, però. Grande. Cioè, avresti votato Nogarin? Dopo Affette, Culo e Pinoli non l'ha detto. Ancora non no. Non mi sono informato, l'unica cosa che mi è garbata di lui, l'ho sentita da voi, è il discorso del turismo, ma vedi anche lì a Livorno è una città che si lamenta e si crosola, non ci va a mai. Ma perché nulla. Hanno perso la sinistra dopo 70 anni secondo te? C'è un motivo? Ma perché la gente si è stancata, la gente di qualcosa ogni tanto veramente c'ha bisogno di un po' di innovazione, sicché se non voti il PD chi voti? Meglio a destra, si dice, no? Vabbè, chiaro. No, nel senso, c'è Grillo, voti Grillo, cioè non è che c'è pure tu avresti votato sto Nogarin, diciamo la verità. Ma tu non sei più residente a Livorno, che No, sono residente a Livorno, ma al lavoro sto facendo il mio secondo film da regista per la gioia di tutti gli amici del David, che poi tra l'altro il mio non l'hanno nemmeno cagato, chiaramente, in fuga di cervelli, ma io sono contento, cioè mi sarei quasi offeso forse. Cioè è un premio che schifi quasi questo David, ma no, di Donatello. Io non schifo nulla e io alla rovescia di loro sono molto più, cioè credo di essere davvero più accogliente, per me bisogna essere un pochino tutti più tranquilli e prendersi un pochino più in giro, tutto lì. Va bene, allora grazie, ciao. Grazie, ciao, Paolo. Grazie a voi, vi voglio benissimo, viva la topa. Senti, ma la topa della politica italiana chi è, la Boschi? La topa è bella, la Boschi è discreta, sì, secondo me sì, discreta però, sì. Discreta, però non lo diresti come la Loren, meglio la Loren della Boschi, diciamo la verità. Ma no, scusami. Cioè se avessi davanti una scelta tra i due chi sceglieresti? Beh, ma tuffo, scusami, la tuffo la Boschi. Ma scherzi, secondo me ho dei, Boschi. Ho dei dubbi, io non lo so, ragazzi. No, la Boschi secondo me ti fa delle belle capriole. Dici? Vabbè. Capriole? Ciao. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Quando la zanzarita tormenta la mia noce. Cara Sofia Loren, non sei una bella topa, sei una bella fica. Mañana io sono stanco come una muchachita. Niente, una notizia terribile per lei e per Enzo, che siete notissimi frequentatori di prostitute transessuali. Perché questo signore che si chiama Ernesto da Roma si è fissato con questa cosa? Vogliamo chiarire una volta per tutte, Parenzo, tu non sei mai andato a prostitute. Cioè, chiariamolo una volta per tutte, no? David? Sì. Oh, e dai, che cazzo? Allora? Mi senti o no? Che sono in radio per giunta. Sì, ti sento, sono questi qua dietro vetro che fanno... Sono in radio, sono in radio. No, ma sono questi dietro vetro che non ti hanno aperto il microfono, dai, non ti hanno aperto... Boicotta. Comunque, io sono mai non tu non sei mai andato non è che condanno chi ci va, figuriamoci, però non ci sono mai andato io personalmente, io qualche volta, ma in situazioni ma l'ho già detto mille volte, però questo signore non è che può dire così a entrare, siete notissimi frequentatori di prostitute, sì, perché si becca una querela per diffamazione, no. Ma per lei questo è grave, lei che va a puttane tutti i giorni, per lei è gravissimo. Ma che cosa è grave? Che c'è la fuga dei cervelli, c'è la fuga delle prostitute a trovare lavoro in Austria, in Svizzera, per una roba vecchia, dai. Comunque c'è da segnalare questo. Ma di politica oggi che c'è? Siccome abbiamo parlato la politica, adesso ti dico, ma in tempo reale c'è da segnalare cosa ha detto il signor Giancarlo Leone, direttore direi della Prima Rete. Che ha detto in tempo reale? Beh, 5 minuti fa su Twitter. Che ha detto? Ritengo eccessiva l'accoglienza goliardica di Paolo Ruffini a Sofia Loren, che se offesa merita le nostre scuse. Ah, invece lui dice niente scuse, io non devo dare nessuna scusa. Per questo te l'ho letta, perché ma in tempo dai, reale. Su, ma di che stiamo reale, parlando? Tempo reale, ragazzi, ma quali scuse? Ha detto. Signor Leone. Ha detto. No, tempo reale? Sì, d'accordo, ho capito. Adesso basta questo tempo reale. Ho capito. Tempo reale? Sì, ho capito. Aggiornamenti in diretta. Lo sai che c'è sciopero oggi a TG3? In realtà non dei giornalisti, ma dei tecnici. La Rai fa sciopero, amici miei. Noi non ce ne fotte nulla. La Rai fa sciopero. Sciopero, capito? L'11 giugno, in modo paracuro, il giorno prima di giugno è una data importante. Giorno prima dei mondiali. Ma che prima sciopero dei mondiali? Sono 30 anni dalla morte del grande Berlinguer. Vabbè, oggi adesso, sono stato alla commemorazione in piazza. Francamente non mi sono svegliato con questo pensiero. No, perché sei una brutta persona. Tra un po' io racconterò qualsiasi domanda tu faccia. Io farò una cronaca di quel che ho visto, di questo popolo che ho incontrato oggi. Veltroni che ho visto D'Alema. Hai perso tempo a fare questo. Ecco perché oggi non ti sei fatto sentire. Cossutta. No, ho montato un servizio per Madrid che andrà in onda stasera. Sì. E poi sono andato alla commemorazione del compagno Berlinguer, morto pensa a Padova 30 anni fa. Non mi sono svegliato con questo pensiero. Fai molto male. Male. Era comunista. Ti dico solo questo, era comunista. Era un comunista speciale. Era un italiano per bene. Ma era comunista. Una grande figura. Ma che c'è? Mica hai detto che ve lo dici come fosse il della sindaco, camorra. Il sindaco del Movimento 5 Stelle, Nogarin. Passiamo alle cose più attuali di oggi. Nogarin che dice il trasporto pubblico gratuito. Però, caro Nogarin, io ti apprezzo, assomigli anche a Serse Cosmi, assomigli a Montalbano, assomigli forse anche a Mario Biondi, il cantante di blues. Però, amico mio, i soldi si devono trovare, perché trasporto pubblico gratuito magari ma lo fa. Ma per chi poi? Per per i livornesi. Vuole il livornesi. Trasporto gratis. Cioè, i mezzi pubblici viaggeranno nella mail. Ma come nella mail? A Livorno. Ma no, dai. Ma certo, cretino. Ma no. Ma è così. Sarà un trasporto normale, come avviene dappertutto, con le stampanti 3D. Uno da casa digiterà www.cruciani.com e arriva direttamente là. Ma via mail. Lo fanno ovunque. Stanno abolendo il servizio pubblico. Ma è finito il tram, l'autobus inquina, cretino. Tutto finito. Con le mail viaggiamo. Mail. Entri nell'iPad. Grillo. Entri dentro l'iPad. Con il computer, ognuno. No, ovunque. No, non si può fare. Digita l'indirizzo dove deve andare. A largo Berlinguer. Lo digiti nel computer. Ci entri dentro e arrivi con la mail. No, però scusi, Grillo. Gratis. Esiste il wifi per tutti o no? Sì. E entri nella rete. Sì, viaggi così nella rete. Un ologramma. Il sindaco dei 5 Stelle ha detto un'altra cosa, Grillo. Trasporto pubblico gratuito. Cioè, pubblico con l'obiettivo. Perché non ci sono più gli autobus? È finito. Per quello, è un modello di sviluppo finito. Ho capito, però la gente solo si voi squinzi credete ancora. Nessuno si sposta più. Così. Ma come non si sposta più? Ma nessuno ovunque. In Germania, in Svezia. In Svezia è già così da anni. Ma non è vero. Con la mail viaggi, con la mail. Ma non è vero. Ma è così. Se devi andare da Stoccolma a Copenaghen, come fai? È tutto collegato, tutto in rete, collegato. Entri da casa, da Stoccolma, così lo digiti nel computer, entri dentro la mail e vai e arrivi a Stoccolma in un minuto, in 40 secondi, se c'è il wifi. Cioè entri dentro con le stampante 3D. Ma non, è, non pure, ti magari. Posso spiegare perché non capisci un cazzo. Dentro la stampante ti faxano direttamente. Ma no, e arrivi con un ologramma, lo fanno le particelle che si compongono ovunque, è così. Solo da noi perché siete corrotti, è così. No, intanto, e c'è il PD meno. Vabbè, ho capito. Nogarin, sentite Nogarin. Questo è il nostro obiettivo di medio-lungo periodo, cioè mi riferisco a cercare di portare a Livorno un trasporto pubblico gratuito. Oh, qualcuno propone di twittare l'hashtag La Loren è una topa. Dai ragazzi, ma la Rai è di una tristezza infinita. Cioè il direttore di Rai 1 che dice beh forse dobbiamo le scuse a Sofia Loren. Gli ha detto che è una topa, c'è, cioè una figa pazzesca. Se si è offesa dobbiamo chiedergli. È il direttore della rete, è il padrone di casa, tutto sommato. Ho capito, sommato, no? Ma bisogna essere un po' smart però in queste cose, dai. Hanno scelto un conduttore che gli ha detto che è una topa pazzesca. Non è che hanno scelto Pippo Baudo. Pippo Baudo gli avrebbe detto ah Sofia. Vabbè, Pippo Baudo di adesso forse avrebbe utilizzato pure la parola topa, non lo so, Pippo Baudo di adesso è meglio di quello di prima per certi aspetti. Cara Sofia Loren, non sei una bella topa, sei una bella fica. Che abbiamo oggi? Di politica non c'è una mazza, perché c'è questa roba della responsabilità. Cioè, a me mi fa ridere questa storia. Tutti che si accapigliano, dichiarazioni, eccetera, sulla responsabilità dei magistrati, che è passata con un mezzo trucco, con le astensioni, eccetera, alla Camera, credo. Deve essere approvata dal Senato. Non succederà nulla, non vi preoccupate. Non succede niente. I magistrati in Italia non pagheranno mai per i loro errori. Non vi preoccupate, state tranquilli. È intervenuto anche il signor Napolitano. Sì, ma non succede nulla, non vi preoccupate. Tutta gente che si muove per nulla. Non succederà niente, niente. Ah sì, c'è Galan che dice andrò a prendere i miei accusatori uno per uno, dovessi metterci anche 15 anni, capito? Dovessi metterci 15 anni andrò a prendere i miei accusatori uno per uno, dice Galan. Però Galan dovrebbe anche spiegare, ma lo spiegherà sicuramente ai magistrati, perché come faceva a mantenere un certo livello di vita con certi conti in banca, con certi movimenti di denaro, 88.000 euro con le dichiarazioni all'anno. Noi ci crediamo, sì. Per carità, beh, siamo garantiti, sì, sì. Però bisogna spiegherai ai magistrati. In Parlamento però ma sugli amici della finanza non diciamo niente. Sì, gli amici della finanza, vabbè, ha espresso delle parole molto chiare il professore Taormina, che dopo vi leggerò. Allora, Di Benedetto dei 5 Stelle dice che a Montecitorio il presidente della Camera vorrebbe istituire il parrucchiere, cioè non solo il barbiere, ma vorrebbe, che già andrebbe abolito, ma anche il parrucchiere per le donne. Parrucchiere. Intervengo dato che oggi ho appreso attraverso i giornali di una delibera del Collegio dei Questori fortemente voluta dalla Presidente Boldrini. La delibera prevede l'istituzione di un servizio di parrucchieria da accostare al servizio del barbiere che già è presente a Montecitorio. Ora io non voglio entrare nel merito del provvedimento e diciamo, lascio questa riflessione alla Presidente. Più che altro vorrei invitare tutta l'Aula a una... Non le importa mucho, si Massimo da Salerno. Buonasera Massimo da Salerno. Ciao Crociani, buonasera a te e a Parenzo, che è un'ottima spalla tra l'altro. Vai, vai. Lo vedo più come comico che come giornalista. Vabbè, non ha capito nulla, comunque vabbè. Lo so, come al solito. Vai Massimo, no, forza, su. No, ma chi ha detto? Lei, no. In questo caso lei non ha capito niente, però va bene. No. Ma guarda che non è che si offende Parenzo se... Non mi interessa se si offende o meno, ho dato solo una mia semplice opinione. No, ma stai sereno, non mi offendo mica io per questo. Vabbè, poi avanti. Sto sereno. Mi chiedevo però, è vero che dei passerotti fossi in Parlamento non se ne deve parlare, degli uccelli, eccetera. No. Ma qual è il luogo deputato a questo tipo di leggi da emettere? Non lo so, guarda, a me vuoi sentire le discussioni sugli uccellini che fanno da, come dire, da cavia, che fanno da esca, gli altri uccelli che con il loro suono attirano gli altri uccelli come esche, e sulle loro condizioni dietro le gabbie divento pazzo, che se ne parli in Parlamento, divento pazzo! Devono anche spiegarlo che fanno gli uccellini, no? Se no è fondamentale. Ma spesso non ti interessano, Crociani, non ti interessa degli uccellini nelle gabbie, non ti interessa di un certo tipo di agricoltura, delle api e compagnia bella. Non che io ma secondo lei il Parlamento inglese o il Parlamento francese parlano di queste cose? No, ma sinceramente, secondo io lei, so io mi posso giocare lì, anche qualsiasi cosa che non ne parlano, o comunque la discussione viene risolta in due minuti. C'è la direttiva europea, si approva, non si approva, via. Io questo finito. Volevo chiedere. Dove se ne parla in questi casi? Per emettere una legge? Non lo so, ma se ne parla già troppo, se ne parla già troppo. Grazie, Tiziano, provincia di Brescia. No, anzi no, abbiamo Roberto da Pordenone. Roberto Pordenone. Roberto, Crociani, buonasera. Buonasera, allora, dica. Dopo, ci diamo del tu, visto che ci siamo trovati l'altra sera con Filippo Facci, sabato sera alle 18, e sta diventando un caso. Vai, cosa sta diventando un caso? È proprio una compagnia di giro. Sta diventando un caso, la sciarpa. Che hai? Sì, perché io ti ho lasciato a mezzanotte e un quarto mentre in mezzo alla piazza fumavo il toscano, e al mattino di lunedì mi hanno chiamato i giornalisti, visto che eravamo a cena insieme, dicendo mi deve spiegare, caro Roberto, cosa cavolo ha fatto Crociani per ricevere questa sciarpa assassina. Bravo. Questi giornalisti fatto sono nulla. Molto preoccupati e volevano sapere che tipo di love story tu hai avuto. Nessuno. E come mai hai avuto questa sciarpa. Un'inchiesta. Un attimo, fermo lì, chiarisco tutto perché qui non voglio mettere in mezzo nessuno. No, bisogna una commissione, bisogna aprire parlamentari d'inchiesta. Un attimo. Avevo un brocio 20 minuti fa, l'ho detto alla signorina, passami subito Giuseppe che lo fermo, gli lampeggio e te lo passo. Ragazzi, allora c'è polemica. Tra Giancarlo Leone, direttore di Rai 1, so che non è un argomento, come dire, su cui tassisti, autisti, camionisti, cittadini normali, amanti, gente che in questo momento sta tradendo la moglie, perché ci sono molte persone che mentre tradiscono moglie o al contrario mentre tradiscono il marito ascoltano la Zanzara. Tu sai che c'è questa tendenza, no? C'è stata un'inchiesta, abbiamo fatto un'inchiesta serissima, abbiamo scoperto che noi siamo molto popolari tra i traditori seriali. Tra i pedigrafi, coloro che rompono i matrimoni, siamo molto popolari tra questi qua, molto popolari. Loro si pastrugnano e ascoltano intanto la Zanzara. Traditori seriali, gente che tradisce moglie e marito, adulteri, siamo tra questo tipo di persone, siamo molto popolari, cioè, ascoltano la Zanzara mentre stanno lì con la moglie, con l'amante, stanno lì e ascoltano la Zanzara. Così ormai mi hanno detto. Ormai è tutto. Sì, vabbè, professore, ha capito. Tutto degradato, tutto finito. Ha ragione, degradato. Vabbè, allora mi tocca rispondere a questo gentile signore da Pordenone che ha chiamato Roberto. Roberto da Pordenone, vuole ripetere la sua gentile domanda, signor Roberto? No, dicevo che non si può lasciare un paese in suspense in questa maniera, con l'inchiesta giornalistica in corso. Ma quale inchiesta? Crociani. Ma non c'è nessuna inchiesta giornalistica. Ma come no? Mi hanno ma lei chi è? Il sindaco? Chi è? Il sindaco? Chi è? No. Il sindaco? L'hai conosciuto l'altra sera? Sì, d'accordo. Ma pure il sindaco abbiamo coinvolto. Ma non c'entra niente. Grave, però. No, poverino. Ma qual è la storia? Ma qual è la... Che cosa vuole sapere lei? Che cosa vuoi sapere, Roberto? Non ho capito. Voglio sapere questo. Mi hanno telefonato due redazioni di due giornali, i quali hanno saputo che tu hai questa sciarpa ricevuta a Sacile quel giorno. Allora, tutti adesso sono alla caccia per sapere se la tua storia è finita con la sciarpa o cosa c'è sotto. Alla non fine, c'è nulla sotto, ma è una ragazza mi ha prestato, baciato dalla fortuna, può darsi pure che sono io baciato dalla fortuna, cioè non è che ah sono... beh, sì, beh, per l'amore di Dio. Punto, non è quello il punto. Allora, una ragazza, devo dire la verità, molto molto bella, mi ha regalato questa, regalato, mi ha prestato perché avevo un po' di mal di gola, ero un po', pensavo che la mia voce potesse essere un po' compromessa, c'era un po' di vento, un po' di freddo, cioè, mi hanno regalato questa sciarpa, che ha regalato, prestato questa sciarpa che devo dire ha un odore meraviglioso, l'ho detto, quello che ho detto alla radio, nulla di più, non c'è niente. Ragazzi, però io non è che posso dire chi è, chi non è, perché... Non ci crede nessuno. Ma non ci crede nessuno, è così. Ma come hai fatto tutta una serata con Filippo Facci a discutere? Ma che c'entra? Ma che c'entra? Che è il Tomber de Femme, ma Massimo è de Femme, Massimo è più Tomber in realtà, più Tomber che Tomber de Femme in realtà. Ma queste sono leggende, sono cazzate, Roberto. No, noi non ci crediamo. Vabbè, voi non ci credete, ma non c'è molto da discutere. Cioè, la cosa è molto semplice. Beh, invece c'è, ma non c'è. Qualcuno in Parlamento, perché non si alza a fare una bella interrogazione al Ministero degli Interni, ad esempio? Perché questo è un tema. Non cominciate a fare gli stronzi via Sacilia a Pordenone, non c'è nessuna. No. Abbiamo avuto, ti ho fatto le fotografie con 4-5 ragazze con loro cellulare che sei sotto ricatto, devi dimetterti. Ho visto che eravamo lì a prendere l'aperitivo, era lì che tutti si alzavano per salutarti. Che c'entra questo? Vuol dire che avevi il tuo fascino a Sacire. Vabbè, ma quello che c'entra? E chissà, cosa salta fuori dal Mose poi, tra l'altro, ma che c'entra il Mose? Buttiamoli anche quello. Chi se ne frega tanto? Ragazzi, vi interrompo questa cosa, non c'è nulla, c'è il tuo nome, vi prego di non inseguire fantasmi. Quella sciarpa ti è stata regalata dal consorzio Nuova Venezia, cominciamo a dirlo, intanto abbiamo buttato lì una cosa, no? Così, il rap di Giovanardi, ragazzi, il rap di Giovanardi contro la droga, le droghe leggere sono uguali alle droghe pesanti. Giovanardi, che gira, che ronzava zonzo. Ragazzo che mi ascolti, non ti far fregare, la droga non fa bene, la droga ti fa male. C'è il rapper che si chiama Fede con la Z, con le sue canzoni, si sente un po' profeta. Dice che la carne si può legalizzare, la Maria ti fa bene, non si muore col fumare. Io ti dico, occhio, non c'è dosaggio modico, leggere non esistono. A livello medico ci sono le tabelle, la mia legge è chiara, cannabis o ero, non c'è da farla tare. Gli effetti cerebrali, il tossicologo ci piglia, basta un solo tiro, anche una sola pastiglia. Poi c'è l'altro rapper, di nome Pacicoria, dice colpa mia per la sua brutta storia, ma fosse fortunato, qui in galera se va male, se stavi a Singapore era pena capitale. Io sono Giovanardi e scusa se è un po' brusco, ma farsi uno spinello non è un bicchiere di Lambrusco. Ragazzi, uno alla fine di questo rap di Giovanardi si droga però, cioè si droga sul serio alla fine di questo rap del Giova. Vabbè, però bisogna dargli atto di essere il numero uno, da questo punto di vista è il numero uno. Da questo punto di vista è il numero uno. Usa un mezzo che usano i giovani, no? È carino, è stato, dai, insomma, non si può dire. Andrea, provincia di Parma, dai. Non condivisibile, ma... ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Anche se Parenzo mi dispiace salutarlo perché non mi trovo molto con le sue idee. E che c'entra col saluto? Anch'io, cosa c'entra col saluto? Lei comincia subito a farmi incazzare, Andrea. Cosa c'entra il saluto? Lei può attaccare Parenzo per le sue stronzate ogni tanto quando le dice, secondo lei, ovviamente. Però detto questo, perché non mi va tanto di salutarlo? Ma che vuol dire? No, è che vabbè, arrivo al succo. Ieri si parlava di immigrazione, di aumenti dei casi di malattie. Questo è un dato reale. In Lombardia si parla di un aumento del 40% di tubercolosi e scabbia. Qui nella città dove io, oltretutto, ero consigliere comunale fino a un mese fa, allora? Le ultime elezioni, c'era un caso di scabbia in una scuola materna. Sì. Quindi continuare a giustificare che queste persone non ci portano dei problemi mi sembra un attimino esagerato. Oltretutto dobbiamo dispiace vedere certe persone con i problemi che possono avere, bambini specialmente, con questi attraversamenti coi barconi che rischiano la vita, però bisogna fare qualcosa per evitare che continuino ad entrare, non sappiamo più cosa farci. Mare Nostrum. Cioè lei è preoccupato per la scabbia, è preoccupato per i casi di scabbia in Italia portati dagli extracomunitari. Incontrollata, immigrazione incontrollata, li stanno facendo scappare dai centri di accoglienza perché non esistono più centri di accoglienza, sono in ristrutturazione perché loro li hanno distrutti. Loro chi, scusi? Loro, gli immigrati. Ah, gli immigrati hanno distrutto i centri d'accoglienza. Beh, spesso succede, Parenzo. Bisogna essere durissimi contro l'immigrazione clandestina. Durissimi, durissimi. Certo. Dunque, quelli che stanno in questi centri hanno libertà. No, guarda, lei non sa le cose, purtroppo. Lei purtroppo non sa le cose, perché quelli che stanno in questi centri e che hanno cosiddetta libertà di circolazione non sono ristretti lì dentro, è perché alcuni sono considerati rifugiati politici. Che è una grande truffa, lo sai, è una mega truffa questa cosa qua. Cambiate la legge. Basta con questi rifugiati politici. Come tali, non se ne può più, ha ragione l'ascoltatore, basta con questi rifugiati politici, non se ne può più. Allora, quello che invece... Siamo andati a prenderli in acque libiche. Ma cosa vuol dire siamo andati a prenderli? Ma cosa vuol dire siamo andati a prenderli? Ma se l'altro giorno una carretta del mare si è rovesciata e sono morti, ma che ma dice? Che c'entra che si è rovesciata e sono morti? Che dice? Della gente del Bangladesh. Il Bangladesh non è in guerra. Prima dell'Italia. Ha ragione l'ascoltatore. Okay. È una truffa altra colossale cosa. Questa dei rifugiati politici. Colossale. Dimmi. Ti dico un'altra cosa. Al mondo siamo circa 7 miliardi. Qualcuno mi deve spiegare perché gli unici che accolgono e vanno a prendere la gente in acque straniere sono gli italiani. Ma perché siamo i soliti coglioni? Coglioni che andiamo a prendere la gente quando parte e la portiamo a casa da non noi? Non le andiamo tutti a prendere. Non le andiamo a prendere. Eravamo in acque tunisino lì. Non li andiamo a prendere col taxi. No, certo non diciamo sciocchezze. Certo che sì. Erano già partiti da là e quando sono arrivati. Ma come chi se ne frega? Una loro scelta. Ha ragione l'ascoltatore. Ma non ha detto che devono morire. Ha detto che non possiamo andarli a prendere in acqua internazionale e portarli da noi, perché altrimenti arrivano tonnellate come stanno arrivando. Perché è normale, se sai che a un certo punto arriva la Marina Militare a salvarti. Guarda, che non vogliono stare qui. Vogliono andarsene in Germania, in Francia. Loro usano d'accordo. Il nostro paese come momento come paese di passaggio. Non hanno nessuna intenzione di stare qui perché sanno che c'è certa gente che è meglio andare via da qua. Ma figurati, c'è chi? Quelli che stanno a Padova, magari, no? Quelli che hanno preso Padova. Ah, no, no. A proposito, quelli che ha preso Padova, sindaco, gli auguro buona fortuna e buon lavoro. Meno perché male. È stato che a proposito, però, del signor Bitonci, già sindaco di Cittadella in provincia di Padova, nonché capogruppo al Senato dell'omonimo partito Lega Nord. Dimmi. Il signor Bitonci, che apprendo dalle cronache locali del Gazzettino e del Mattino di Padova, dichiara, due punti aperte virgolette, non verrò a vivere a Padova con i miei figli, perché Padova è una città pericolosa. Ma dove l'ha scritto? Dove? Pericolosa! Ha detto il neo sindaco di pericolosa! Padova! E non viene qui a vivere con i suoi figli, quindi rimane a vivere a Cittadella. Il nuovo sindaco. Verrò ogni tanto quando sono nel consiglio comunale, ogni tanto vengo a Padova. Signor Bitonci, tuo amico Bitonci. No, io non lo conosco nemmeno, anzi, ho avuto una lunghissima polemica con Bitonci, figuriamoci. Questo è Servi di Roma fuori. Senza dubbi né ripensamenti. A Padova non più Rom, solo Lega. Servi di Basta con i Rom ai semafori. Senza dubbi si passerà sempre solo con il verde. Padania il rosso sarà abolito. Solo il verde ai semafori. Quella ultima merda di là, di lì che vada in un porcile che è il suo posto. Ma che? Comunque, quello vive a nostre spese, vive meglio di te e me messi insieme, lo sai. Comunque quell'altro stronzo che ha detto che sono pronti per le nostre donne, posso anche capirlo, perché le loro sono talmente brutte che le coprono con il chador e con i burka. Andate a pigliarvelo nel sedere, pezzi di merda di là. Questo è un gentile signore che è intervenuto su Radio Padania. E io segnalerei il nome di questo amico e di questa radio agli amici di Al Qaeda, che spesso dai loro paesi si collegano alla rete, gli amici di Al Qaeda, e così sentono quello che dicono a Radio Padania. Cioè tu stai dicendo che stai consigliando ai signori gli amici di Al Qaeda. Ovviamente sto scherzando. Beh, però insomma, se tu dai, adesso voglio dire, questa è una bestemmia. dicendo, gli amici, ma no, questa è una cosa molto seria, perché al di là di, poi ci sono persone che rischiano veramente la vita, che sono messe sotto scorta, e allora? Per le vignette che hanno fatto, e la satira deve essere sempre, ma questi sono è una bestemmia, cioè la Radio Padania pagata coi soldi degli italiani e dei soldi pubblici consente delle bestemmie, cioè, ma voglio dire, tu, ma stai consigliando ad Al-Qaeda di bombardare Radio Padania, no, quello io hai detto, fatto, di intervenire su Radio Padania, ovviamente lì ho fatto una battuta, vabbè, facile, un attimo solo, 30 secondi, torniamo subito, ma seriamente dico che questi qui devono chiedere scusa, hanno bestemmiato. Hanno bestemmiato perché hanno, ma detto, scusa, pezzi di merda di Allah. Vabbè, traffico, torni, no, che traffico, 30 scusa, secondi. È una bestemmia. Ma è un ascoltatore, eh. No, è una bestemmia. Cara, tutti a Lore, no, c'hai una bella sopa, sei una bella fica. Che tengono lontane le zanzare. Beh, ragazzi, Paolo Ruffini numero uno ha risposto in questo modo alle critiche dopo i David di Donatello, dopo aver detto sei una topa pazzesca, Sofia Loren. Ma qual è il problema? Io veramente non capisco. Qualche volta la RAI impazziscono per queste semplici frasi. Ma qual è? Sì, lei si è un po' stupita perché va di fronte a questo ragazzotto livornese che usa un linguaggio un po' esplicito. Non è Carlo Conti, Piombi, non so, Pippo Baudo, un ragazzo livornese che hanno preso per fare i David, per animare un po' i David di Notello, che di solito sono una rottura di coglioni pazzesca, ha dato della topa, cioè ha detto che è una figa pazzesca a Sofia Loren, tutta un'animazione, un'agitazione, ha fatto una battuta qui da noi stasera, Ruffini ha detto, beh, allora è una figa pazzesca, non mi pento affatto, non devo chiedere scusa, dai, su, non esageriamo. Oh, finalmente, dopo la tragedia elettorale, la tregenda elettorale, è con noi Gianfranco Miccichè, buonasera. Quale tragedia? Vabbè, un po' di tragedia c'è stata, Gianfra, dai, su, c'è stata un po' di tragedia. Uno fa una corsa da capolista, e l'unico che non sei passato sei tu. Ho capito, tragedia esagerato però. Ma tragedia politica, dico, politica, politica per te, personalmente, anche per Forza Italia, in parte, ovviamente, no? Scusa, tragedia, niente, per manco 500 voti ho perso, ma senza. Sì, per 500 voti, è vero, per 500 tragedia voti. Nel senso greco del no, termine. Adesso, no, qui da noi Gianfranco Miccichè aveva detto una cosa, se non riesco a passare, se non riesco. No. Sì. No, non dire bugie. Sì, era io. Tu mi hai detto se ti batte Iacolino e io Iacolino l'ho battuto. Sì, questo è vero, d'accordo. Adesso tu sei molto paraculo in questa cosa qua. Perché, scusami. Però non sei diventato parlamentare europeo. Insomma, vuoi continuare a fare politico o ti sei rotto le scatole dopo questa cosa? Tu sei quello del 61-0. Sei arrivato dal 61-0 alla sconfitta al Parlamento europeo. Le cose bisogna dirle come stanno. Non è che per questo però sei. Prendendo una marea di voti. Prendendo tanti voti, sì, è vero, tanti voti dopo tanti anni. Per cui, e siccome questi sono. Siccome, come sai, avevo il partito contro. Berlusconi mi aveva messo capolista, ma io lo sapevo già da prima che avevo il partito contro. Questi, se vogliamo, sono voti presi a prescindere dal partito. E per cui, se uno fa un risultato di questo genere, non può dire vabbè, arrivederci, ora me ne vado. Per cui, continui a fare politica. Assolutamente sì, se sono messo nelle condizioni ovviamente di farlo. Vabbè, quello poi lo vedremo. Comunque, già una cosa ce l'ha detta. Nonostante il fatto che non è entrato al Parlamento europeo, eccetera, io continuerò lo stesso a fare politica. Allora, però, amici, primo perché è una cosa che mi piace molto, secondo perché, ripeto, che non sapresti che cazzo fare, non sapresti che cosa fare. Battuto. Io prima all'inizio dicevo o mi battono e allora mi ritiro, cioè o faccio un brutto risultato e mi ritiro, o faccio un bel risultato e vado avanti. Ho fatto purtroppo un bel risultato perdendo, e per cui ho avuto questo dubbio, però insomma non vado avanti. Vabbè, allora, però una cosa bisogna dire, quando tu dici ho avuto il partito contro, qui bisogna fare nome e cognome. Allora, le cose sono due: o Berlusconi, il coordinatore regionale che si chiama il signor Gibino, che è quello che possiede un sacco di Ferrari, tanto per come un sacco, una no diverse Ferrari, non ho idea, vabbè, ma comunque non è importante, ti ha remato contro, diciamolo tutto, cioè ha fatto una campagna contro di te, giusto? Sì. Cioè, io ho alcuni dati incredibili del signor Cicu, che è sardo. Ma quello non c'entra tanto Iacolino, però. No, Iacolino, il signor Cicu, che è stato, che ha preso un sacco di voti in Sicilia, dove Miccichè in teoria doveva prendere i voti. Cioè, in alcuni comuni, Parenzo, so che stiamo parlando. È finito l'impero di Miccichè, diciamo così. È finito l'impero di Miccichè. Arriva Parenzo a dire le stronzate. Ma scusami, no, però. È tramontato. Però, come scusami, diciamo di la verità. Xiaoping, è finito, Berlusconi basta, aveva dato un'indicazione precisa. Io questo sì, lo so, c'è cioè sì, quello di far votare Micciché. Allora Berlusconi non conta più niente, diciamolo. No, non è vero. Eh beh, e le sue indicazioni non sono state ricepite. Questo signore qua non ha seguito molto le indicazioni, ma legittimamente, perché è stato... Come legittimamente? Pubblico. Berlusconi ha detto di fare una cosa e quella l'ha fatta un'altra. Capito, è quello che posso fare. Ma hai chiesto la sua testa o no? È un problema tra i due, non chiedo la testa di nessuno. Vabbè, ma che ne so, così en passant, così detto, no. Con Berlusconi quando ci hai parlato gli hai detto guarda questo qua me lo devi fare. Gli ho detto come vede, io lo sapevo, lei diceva di no, ma come vede è successo esattamente come le dicevo io. E che questo mi ha remato contro, ma insomma non ha importanza. Secondo me, ti posso dire la verità, dimmi. Io non dovevo perdere comunque, anche con questo che mi remava contro, per cui non dovevi? Non dovevo perdere comunque, anche quello che mi remava contro, quindi la colpa è comunque la colpa, insomma quello che è comunque mio, ma prendo voglio. No, vabbè, no, uno non se la deve mai prendere con gli altri. Però se il partito sei stato l'unico capolista che non è passato, il partito... Questo mi dispiace, vabbè, mi dispiace. Sei passato dal 61-0 a una sconfitta. Questa è un po' grave come cosa. Uno dovrebbe sentire. È così. Ma ti sei... hai un po' pianto? Dimmi la verità. Hai pianto? No, non pianto. Ti sei depresso? Sì, primi giorni. Guarda. Sì, eri un po' depresso, dai, primi giorni. Né pianto né depresso. Tutto ei provò, la gloria maggior dopo il periglio, la fuga e la vittoria, la reggia, il triste esito. Ma fallo stare zitto, fallo stare. Beh, però ha detto una cosa, bella stavolta, Gianfranco. No, Gianfranco ha detto una cosa molto bella. Che è Manzoni, non l'ho detto io, ma l'ha detto il Manzoni. Vabbè, ha ripetuto. Però tutto ei, senti che bello. Dimmi, fallo, dai. Tutto ei provò, la gloria maggior dopo il periglio, il famoso 61-0, sì, la fuga e la vittoria, la reggia e il triste esilio. Bellissimo. Beh. Due volte nella polvere, due volte sull'altare. Beh, bellissima, questa cosa è bellissima. Questo è lui. Questa è meravigliosa. Però si finisce sull'altare. Sì, è vero, ma... Però ei provò, è passato, quindi ormai, appunto, ei, lui no, provò. No, mica è morto, è ancora, mica è morto. No, per carità. Per senti, mai. Ma ho saputo una cosa, Gianfranco, dimmi un po' se è vero, perché sarebbe una beffa pazzesca. Qualcuno ti ha proposto di andare a lavorare comunque in Europa per il gruppo là di Forza Italia? Questo, gli uccellini no, ogni tanto cantano. No, questo assolutamente no. Ma cosa va a fare il passacarte? No, no, perché come qualcuno fa? Dice... Non esiste proprio. Questo. Non esiste, nel senso che qualcuno te l'ha chiesto. Questa voce ha detto una cattiveria, tanto per cambiare, assolutamente no, non esiste. Però lo vogliamo dire qui che Forza Italia è morta, è finita? No. Non assolutamente è, no. Non è finita. Non ma è finita. Assolutamente no, ma non è finita proprio. Non è finita proprio. Ma no, bisogna cambiare tutto, pure Micciché bisogna cambiare. Bisogna cambiare tanto, ma certamente non è finita. Non è finita, ma qui hanno messo al gabbio tutto. Se uno va a vedere il 2008, quelli del governo Berlusconi, è impressionante sta cosa. Ma è impressionante, c'è tutto al gabbio praticamente. Oggi no, io stavo in quel governo, scusami. No, tu no, tu che c'è, il gabbio no. Gabbio no, magari senza soldi, però il gabbio no per adesso. Ma sta storia dei soldi, com'è che hai detto là? Specifichiamola, dopo la pubblicità ne parliamo, perché tu hai detto, ha fatto il giro della rete, con 4.000 euro di stipendio al mese, che sarebbero praticamente quelli della pensione da parlamentare, si fa fatica. Io però devo dire, sono andato a leggere le dichiarazioni di Micciché, ha detto se uno c'ha i figli da mantenere, se uno c'ha eccetera, è complicato con 4.000 euro, e uno potrebbe, così si può pure accettare, certo non è il massimo dire una cosa del genere, però ci torniamo subito. Ma che certamente con la sola pensione di parlamentare non si possa campare bene, per carità, non esageriamo, c'è chi vive con 1.000 euro al mese, per cui io posso vivere con 4, però effettivamente per chi ha 3 figli, di cui 2 che stanno fuori Palermo e bisogna camparli pagandogli la casa e quant'altro, posso garantire che con la pensione di parlamentare non si fa una bella vita. Questa cosa con Gianfranco Micciché, Forza Italia, non eletto al Parlamento Europeo, però è sempre Micciché, insomma, è quello che ha fatto la storia di Forza Italia in Sicilia, eccetera. Allora, che volevi dire con questa storia di 4.000 euro? Allora, intanto io ho sbagliato, perché sono uno che ormai dovrebbe conoscere i meccanismi della comunicazione. Come dire, della comunicazione, e quindi ho detto una stupidaggine. Ma quello che volevo dire era questo, che siccome se uno vuole continuare a fare politica è obbligato ad avere una segreteria. Con 4.000 euro al mese è difficile fare politica avendo una famiglia con 3 figli, e di cui 2 stanno fuori e che deve aiutare a stare fuori. Ma perché quindi 2 figli fuori li paghi tu, non ho capito? Li sostieni tu, li mantieni tu? E certo, chi studia, chi vuole che li mantenga. E non so quanti anni hanno. E Certo, una è grande e ormai si mantiene praticamente da sola, ma fino a pochissimo tempo fa gli davo comunque una mano. L'altra è appena si è laureata, è andata all'estero, a Milano, praticamente all'estero, per poter... Vedi che poi alla fine cioè, ha preso la batosta eccetera, però cioè, rimane sempre allegro, dai, su, all'estero, a Milano, vabbè, comunque l'altro è andato a Milano, vabbè, e dunque vabbè, con 4.000 euro, però ho capito, a parte questi 4.000 euro già... carità, dico, io infatti ho detto, in ogni caso, per carità, se penso che c'è chi vive con 1.000, mi sento comunque fortunato, ma non è facile riuscire a fare politica, avere le segreterie con 4.000 euro. Avendo una famiglia, se uno non avesse la famiglia, dice, mi sparo tutto quello che ho io e me ne frego. No, ma avendo una famiglia... Però vabbè, scusami, c'è gente che ha... va bene, d'accordo, però... Ma non c'è dubbio. Cioè, 4.000 euro netti, perché poi tu quando li prendi sti 4.000 euro netti tu? La pensione già la prendi da parlamentare? Prendo quello che è vitalizio, che più o meno è tanto. Ma già lo prendi? Ma quanti anni hai, scusa? 60. Ah, se sa, perché tu sei della vecchia... No, non è... No, io sono vecchio e basta. No, cioè, perché è scattato a 60 anni, è da adesso che è scattato sto vitalizio, a 60, o meno da 50, scattato, o da prima, non mi ricordo più come erano, perché tu non rientri nelle nuove norme, no? Sei ancora con le vecchie norme dei vitalizi. Con le vecchie norme, ma che insomma, il conquibus è sempre quello, vecchio o nuovo, che sia... Vabbè, comunque 4.000 euro, tre figli di cui due da mantenere, comunque da supportare, una segreteria politica. Comunque, ho capito. In ogni caso, io la stronzata l'ho detta comunque. Non è che, perché comunque lo devo sapere, che quando si parla o si ha il tempo, come gentilmente mi state dando voi, di spiegare meglio, o battuta su battuta, appena uno inizia una cosa, l'altro si blocca e passa un altro argomento. Vabbè, però tu non è che stai. Però l'ho detto, punto. Cioè, non è che l'hai detto perché lo pensi, giustamente l'hai detto, sì, lo pensi. Ma sei un po' in difficoltà dal punto di vista economico, perché appunto si parla sempre di micichè. Non sono in difficoltà per niente, sto benissimo. Stai benissimo. 4.000 euro al mese oggi. 4.000, stai da Dio. Ma la moglie lavora, però. Mia moglie non lavora, ma non ha importanza. Ho capito, non è importante, no, però sono cose che sono rimbalzate, l'hanno preso per il culo sulla rete per giorni e giorni, su questa storia di 4.000 euro, gente incazzata che dice come fa, anche esageratamente, come fa Michiche a dire una cosa del genere, che con 4.000 euro eccetera, è importante specificare, spiegare eccetera, con la segreteria politica tu dici due figli, 4.000 euro, uno alla fine fa la fame. Allora, si può fare di tutto, ma nessuno mi può negare per uno poi... Allora, posso dire una cosa? Perché sì, poi si dice sempre le cose negative, per carità, è anche giusto. Però io sono uno che, per esempio, non ha, grazie a Dio, con tutte i cose di questo mondo, con tutte... Posso confermarlo a vita, che non ho mai preso una lira da nessuno. E non ho mai rubato una lira a nessuno. Allora non c'è dubbio che quando poi succedono questo tipo di cose, invece che apprezzare il fatto che uno non abbia mai rubato una lira, viene fuori il dramma che ha detto questa cosa terribile del Briatore dice che è meglio andare a fare i camerieri, così uno prende 4-5 mila euro di mancia. Chi lo dice questo? Briatore. Potresti fare quello, 4-5 mila euro di pancia? No, vai, cameriere. Però, non lo so. Scusami un attimo una cosa, però torniamo a parlare di politica. Berlusconi, no? Berlusconi, ma se è circondato, secondo te, da questo cerchio magico con la Pascale, con lo stesso Toti, pare ne faccia parte di questo cerchio magico? È davvero così impenetrabile il presidente? Ma assolutamente no. Ma come no? Esiste questo cerchio magico, dai, su. Ma c'è cerchio magico, un cerchio magico, tutte le volte che lo cerco ci parlo. Ma tu perché hai un rapporto storico? Ma con chi? Ma cosa fai? Chiami il suo cellulare? No, non ha cellulare lui. Devi passare sempre dalla Rossi. Come fai? Cosa fai? Prima come facevo, scusami. E che ne so? Pronto, sono amici gay. Però certo, il fatto che non sia riuscito a farsi ubbidire in Sicilia, forse l'ha detto così, diciamo, votare il amici gay. Cioè, ha detto bisogna votare Michiche e nessuno ha dato retta a Berlusconi in Sicilia, come mai? È successo qualcosa, no? O no? Che ne so, chiedilo a quelli che l'hanno malvato, che ne so io, ma non fare domande inutili. Senti un attimo, ma la sera in cui non sei stato eletto ti sei ubriacato un po'? Che hai fatto? Raccontami una cosa inedita, una cosa che è successa. Inedita, hai mangiato pane cameuzza? Pane cameuzza e panello. Hai fatto qualcosa? Ti sei un po' ubriacato, no? Hai pianto, no, ubriacato, sei disperato? Non ho pianto, non mi sono ubriacato. Cioè, se avessi davanti Gibino, cosa gli diresti? Gli regheresti una Ferrari almeno? Rigagliela. Caro Gibino. Eh? Gli regheresti una Ferrari, di la verità. Se ne ha tante. Un piccolo rigo così con le chiavi della macchina. La Ferrari non la vorrei proprio. La però una, gliela righeresti la Ferrari, sì, una bella Ferrari. Sì. Gliela righeresti la Ferrari con le chiavi della macchina. La righerei? Con una chiave gli righeresti la bella Ferrari. Dai, su, t'ha fregato sto Gibino, hanno fatto leggere. Ma Galan, secondo te, deve andare fuori dal partito? Galan? Ma guarda, a me questa cosa di Galan è un'altra delle cose che mi lascia veramente, mi ha lasciato molto male, perché non ci credo, che posso fare? Ah, non ci credi, non ci credi, cioè non credi che abbia intascato i soldi un milione di euro l'anno secondo le accuse? Sono sempre al solito, però faccio troppa fatica a crederci. Cioè fai troppa fatica a crederci, cioè il fatto che i magistrati dicano che lui prendeva un milione di euro al mese di stipendio praticamente da questo consorzio, da alcuni imprenditori per facilitare... mica sarà un dramma pure questo. No, per carità, eccetera. Cioè se tu fossi alla Camera non daresti l'autorizzazione a procedere? Non per no, in ogni caso uno alla Camera si guarda le carte, delle carte vabbè, quello... sono guardando le carte, perché è giusto fare una cosa, la fa, se non la dire giusta non la fa. Purtroppo si fanno le cose senza guardare le carte. Io ti posso dire, l'altra volta quando c'è stato l'arresto di Genovese, che è uno del PD, per cui non ci possono essere dubbi sul fatto che non gli faccio tifo, ma intanto quando è stato questo arresto, onestamente è stato un arresto che io non lo so, ma non a parte che è stato liberato dopo tre giorni, è stato mandato ai domiciliari dopo tre giorni, dopo 3-4 giorni. Sì, questo è un altro discorso. Vabbè, le carte non sono lette. Cioè Forza Italia deve opporsi secondo te alla richiesta di arresto? In ogni caso è stata fatta tutta un'operazione politica per cui siccome i grilli avrebbero fatto casino, sicuro, sicuro. Non so che cosa, e allora senti, ma ha fatto bene Fitto a uscirsene con questa storia delle primarie, a mettere i suoi voti in contrapposizione a quelli di Todi o no? Tu sei più fittiano oppure totiano? Quando si fa un minimo di movimento secondo me fa sempre bene, però non lo so veramente se ha fatto bene o ha fatto male. Io non l'avrei fatto probabilmente, io un altro carattere. Cioè un altro carattere, contro Berlusconi non ti saresti messo, diciamo. No, specialmente in questo momento. Specialmente in questo momento era inutile io mi ci sono messo in altri momenti quando lui era forte presidente del consiglio e una maggioranza, cioè in questo momento mettersi a fare casino in un partito che ha perso abbiamo secondo me delle difficoltà che vanno superate insieme, se non si fanno casino è meglio, se non si fanno casino è meglio. Intanto un ascoltatore ci confermo sto andando in motel con la mia amante all'Omazzo, poi ti mando le prove. Dunque siamo molto popolari tra persone che tradiscono mogli, mariti, hanno amanti, eccetera. La Zanzara è molto popolare tra queste persone, bisogna dire la verità. Persone ascoltano la Zanzara. Motivo, no, ma me lo sto chiedendo assolutamente. Però il motivo è una cosa fondamentale, questa cosa. C'è ragione che mi cioè, tra il popolo della Zanzara ci sono molte persone che ascoltano la Zanzara mentre tradiscono moglie, marito, vanno con amanti. Ma c'è anche notai, professionisti. Ciao Gianfranco, a presto. Ciao ciao. Un abbraccio, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Hanno con un proiettore nel Duomo di Messina hanno proiettato delle minchie finte. Che l'estate mi tortura, mi rende isterico. Tu sei come una piccola zanzara che la notte mi consuma. Per chi fosse interessato, litigano a distanza Gianfranco Fini e Alessandra Mussolini. Capisci tu? La sera Merlino Mussolini dice: l'incontro tra Fini e Cicchitto è dissenteria acuta. È da dissenteria. L'incontro Cicchitto Fini è da dissenteria acuta. È meglio lavorare, non voglio Fini discutere con te, diventare matto se tu sei gelosa più di me. Da quando lei ha fatto questo annuncio, il giorno che è successo, c'era qui da noi Alessandra Mussolini, che lei ben conosce, che diciamo che le ha fatto un'accoglienza tremenda. Glielo faccio sentire perché ho la sensazione che dentro il centrodestra. Però lei deve pure sapere un po' il clima che c'è dall'altra parte. Vediamone un pezzetto piccino, così non lo innervosiamo troppo. No, no, che innervosiamo, insomma. Vede, è difficile però parlare di problemi se poi si va allo sketch, eh. perché anche responsabilità dell'informazione me lo permette. Esatto, però quelli sono a centrodestra anche ma quello, questo, Ma a me che avete deciso che non la mandiamo? No, no, mandiamola su. No, mandiamola. Cioè, io la trovo, la cosa che trovo veramente insopportabile è questa spocchia, capito? Gianfranco Fini è sotto il livello del, cioè siamo al, come si dice, al monoscopio quasi, capito? Siamo al monoscopio politico, al monoscopio politico. Ma ha pagato per questo. Ma non, ma lascia perdere, pagato, Fini, non pagato. Siamo al monoscopio della politica. Ma non c'entra. Quella però ha preso 80.000 preferenze, quante ne ha prese in Lazio? Ma non è che però le preferenze ti permettono di capito dire qualunque e lui cattiveria fa, no, ma la Mussolini, la Mussolini. Vabbè, ma ha detto semplicemente che l'incontro Gianfranco Fini per le sue scelte ha pagato un prezzo molto alto. Ma che vuol dire che per le scelte? Ha fatto delle stronzate politiche, fuori, si può dire che ha fatto, delle scelte, delle stronzate politiche. Per qualcuno no, qualcuno aveva creduto in quel partito, aveva creduto nel fatto, ad esempio, qualcuno dice che la fine di Berlusconi politico inizia con l'addio di Fini al PDL, con quella messa in discussione, eccetera. Quindi ragazzi, ha fatto un suo percorso. Uno non è che è arrivato, a parte che ha detto che si ritirava dalla politica, invece è ancora lì che vuole fare un nuovo centrodestra. Che è fuori dal, vabbè, che c'entra? Ma è fuori dalle istituzioni, ma non è che abbandona la politica, anzi, ma ben venga Fini. Ma no, invece, ma ognuno può fare quello che vuole. Io sto Fini dicendo, tu che sei sempre uno che va a vedere le contraddizioni, aveva detto che lasciava la politica più o meno? Ebbene, infatti, siamo ancora non si lì. È più candidato. Siamo ancora, beh, ma con chi si candidava? Ma può avere un con ruolo chi si candidava? Ma perché vuoi impedirgli di fare politica? Con chi? Ma non ho capito, vuoi impedirgli di fare politica? Ma io sto dicendo semplicemente. Allora lui può continuare la passione politica e continua a farla come può, cioè fuori dalle istituzioni. Ma sì, ma nessuno dice niente dalle fondazioni, sì, certo. Però adesso lo critico, no, perché ma io critico lo snobismo, lo mi risparmi la Mussolini e lo sketch, come cioè dire, su, quello non capisce nulla di politica, senti, non capisce nulla di politica. Va bene, alle signore non si replica. Ricordo soltanto alla smemorata Alessandra che mi disse, quando la convinsi nel 94 a candidarsi a sindaco di Napoli contro Bassolino: ma sai, di politica io non capisco nulla, sono passati 20 anni, aveva ragione lei, sbagliai io a candidarmi. Invece di rivendicare quella che fu una candidatura eccezionale, in realtà, perché fu una candidatura memorabile, ma ricordate, no, ma fu una candidatura memorabile perché prese un sacco di voti contro Bassolino, ti ricordi? No, credo che costrinse Bassolino al secondo turno, se questo non sbaglio, dimostra che Fini aveva naso però per le cose. Senti, no, ma se ti piace Fini, no, ma se ti piace, ma se ti piace, ma io discuto nel merito, ma discuto nel merito, ma non che mi piace o non mi piace, discuto nel merito della questione che hai sollevato. Siccome siamo al monoscopio, non parlo del monoscopio, anzi no, parliamo, perché sarà bene pure con la Santanchè. Fini, parlo dei problemi, non dei tacchi della Santanchè. Senti, senti. Io parlo a quegli, spero di parlare, a quegli elettori di centrodestra che non ci si ritrovano in un centrodestra che discute soltanto di quel che dice la Mussolini, dei tacchi a spillo della Santanchè, di quel che ha pensato Fitto, delle primarie sì, delle primarie no. Con tutto il rispetto per Berlusconi, che ha avuto un grande ruolo, ma come me appartiene ad una fase che si è chiusa, o torniamo a discutere delle cose. Certo che è incredibile, per parlare di una cosa concreta di oggi, cioè la questione della responsabilità civile dei magistrati, che ripeto non si farà e che non interessa a nessuno, nel senso non interessa a nessuno, interesserebbe molta gente il fatto che i magistrati possano pagare quando sbagliano, che Renzi e Napolitano vanno subito in soccorso dei magistrati che si sentono gravemente offesi, perché un libero Parlamento decide di fare una mossa, non dico contro di loro, ma perché magari paghino in alcune occasioni, si sentono offesi le associazioni dei magistrati. Le associazioni dei magistrati di fronte al libero Parlamento non dovrebbero dire nulla, dovrebbero stare silenti, mute. Traffico. Beh, ormai loro traffico sono come. Alla vostra destra la 4x4 che domina la città, l'inimitabile Subaru XV. Alla vostra sinistra, pronta a guidarvi verso ogni meta, l'insuperabile Forest Adventure. Ma non è finita, ecco che si fa sotto l'ineguagliabile Outback Adventure. Nuova gamma 4x4 Subaru a partire da 19.990 euro. Vieni dal 9 al 14 ai Subaru 4x4 Days a scoprire gli imperdibili vantaggi su tutta la gamma 4x4 negli showroom Subaru che aderiscono all'iniziativa. Strade in diretta. Buonasera, il traffico diminuisce, ma dobbiamo segnalare sulla tangenziale sud di Torino rallentamenti per un veicolo in fiamme tra Autoporto e l'interconnessione con la tangenziale nord, verso la tangenziale. Sulla 4 sul tratto Milano-Brescia ci sono code di 1 chilometro per un incidente fra Bergamo e Seriate verso Brescia. Sulla 12, sulla 21 scusate, il traffico è rallentato per un incidente tra Voghera e Casteggio in direzione Brescia. Ci spostiamo in Liguria, sulla 12 Genova-Rosignano, traffico rallentato per un veicolo fermo in panne tra Genova Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo ligure. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo infine che lo svincolo di Serravalle Scrivia in entrata è chiuso al traffico fino alle 6 di domani mattina verso Genova per lavori. È tutto per ora, dopo. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Rimettiamo un po' Padania, Padania libera, eccetera eccetera. Fatemi sentire un po' la Padania. Fatemi risentire la Padania, su. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Parenzo pochi minuti fa ha detto ha invocato l'arrivo, l'intervento dei signori di Al-Qaeda, di fronte a questo ascoltatore di Radio Padania, sentite. L'ultima merda di Allah, digli che vada in un porcile che è il suo posto. Ma che? Comunque, quello vive a nostre spese, vive meglio di te e me messi insieme, lo sai. Comunque quell'altro stronzo che ha detto che sono pronti per le nostre donne, posso anche capirlo, perché le loro sono talmente brutte che le coprono con il chador e con i burka. Andate a pigliarvelo nel sedere, pezzi di merda di Allah. Fai vedere quanto è bella la tua terra. E Nabucco salirà alto nel cielo e ti cullerà. Ce n'è un altro poi, eh? Intanto quel pezzo di merda che si permette di dire che non siamo pezzi di merda, perché li fate parlare? Perché almeno andate al lavoro sapendo con chi avrete a che fare quando li incontrerete ai semafori. Calma, io sono un maestro di karate, non ho bisogno di tante cose. Maestro di karate. No, ma io dico un'altra cosa. Quella era una battuta. Se si sono offesi, chiedo scusa. No, va bene, ma perché devi tirarti indietro? Perché hai fatto... ho fatto una battuta. Hai fatto una battuta sui signori di Al-Qaeda che devono intervenire. Ho fatto una battuta. Devono gettare un occhio a Radio Padania. I signori di Al-Qaeda. Dico un'altra cosa. Forse no, l'ho fatta sotto forma di battuta. Dopodiché, se qualcuno si è offeso, chiedo scusa. Ma perciò, ho preso le battute quando uno le fa pesanti. Se qualcuno si offende, bisogna chiedere scusa. Dopodiché però, se uno tira una bestemmia, perché quella è una bestemmia, io su questo voglio ragionare, voglio ma dire. Ma quello è un ascoltatore che intervenuto. No, non è un ascoltatore. Beh, ho capito, ma se qualcuno bestemmiasse qui in diretta la nostra trasmissione, succederebbe finimondo. Perché ha detto la pezzo di merda di Allah. Io non lo ripeterei fossi in te, però voglio no, perché è una cosa offensiva. È una cosa molto offensiva. Cioè io se magari sono laico, non sono molto religioso, ma se uno sente una bestemmia nei confronti della cosa in cui crede, è una cosa molto molto grave, non allora, perché senti, c'è il reato senti di vilipendio alla religione. Senti che ha detto invece Sammy Varin. Che mette la mascherina contro scabbia e TBC, signor Sammy Parin. Padania bella e libera, guardavan. Sammy Varin mette la mascherina contro scabbia e TBC. Senza dubbi né ripensamenti. Guarda che stanno davvero portando un fracco di malattie e che qui non c'erano più, e sto parlando di tutti gli immigrati che sbarcano, basta guardare i militari che li accolgono, mascherina o magari casco. Quando vado in metropolitana mi devo mettere anch'io così, perché ci sono delle malattie stupide come la scabbia, che però non ti passa più, va avanti, qui la scabbia non c'è da tempo in Italia. E poi c'è però anche la tubercolosi, che è una sciocchezzola un po' più invasiva. Guarda oltre i monti, non permette. Capito, David? Guarda, ma questi qua che continuano a fare propaganda su queste malattie. Ma tu la metteresti la mascherina? Assolutamente no. La mascherina è metropolitana. Assolutamente è una stupidaggine colossale. Tra l'altro, se questi vogliono discutere seriamente di questa cosa, lo facciano fare dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo dica il ministro della Salute. Non si possono fare battute su questo. Questo è razzismo. Perché se il ministro della Salute, che è persona per bene, la signora Lorenzin, non ha deciso di non dare. E non è che arriva Sammy Varin e dice dovete mettervi la maschera. Attenzione, in metropolitana. Il professore avvocato Carlo Tormina dice la corruzione della Guardia di Finanza è sistemica. polemica, perché torna come Tangentopoli, anche allora ci fu corruzione, nulla è cambiato. Ma i nuovi arresti e incriminazioni della Guardia di Finanza dimostrano che il corpo è sistemicamente e irrimediabilmente malato. Noi controllati da loro? Eliminarlo, cioè bisogna eliminare la Guardia di Finanza. Quando in un corpo militare come la Guardia di Finanza sono corrotti i capi, si è autorizzati a ritenere che tutti siano corrotti. Chiedo indagini su tutti. Che vuol dire chiedo indagini, no, indagini su tutti? Vabbè. Però dici una cosa vera, Taormina. Cioè anni fa ci fu un referendum radicale. Come no? Per togliere, che c'entra? Per quello per togliere le armi, smilitarizzare la Guardia di Finanza. Beh, no, quello invece è fondamentale. Sì, perché vabbè, il fatto che sia un corpo militare è un altro problema. Rende l'accesso più difficile a quel corpo. Vabbè. Invece, se fosse civile, sarebbe tutto più semplice. Danzano come zanzare. Allora, è con noi un protagonista dell'attualità di questi giorni, caro Parenzo. No, è una cosa molto seria. Noi ci siamo schierati assolutamente al suo fianco, a fianco di una signora, di una ragazza, di una donna che prima non era una donna ma era un uomo, ha subito un'operazione, nel senso che ha scelto di fare un'operazione per diventare donna, sì. E pretende che lo Stato non si metta di traverso e che confermi il fatto che c'è adesso una signora insieme ad un'altra, sì, donna, sì, e pretende che il matrimonio sia confermato. E invece lo Stato dice no, se lei ha fatto un'operazione ed è diventata una donna, il matrimonio non esiste più. Alessandra Bernaroli, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti e tutti i radioascoltatori. Come sta? Salve. Come sta? Ma sto bene, un po' stanca, ma insomma tengo duro, tengo botta, come si dice. Ma quanti anni ha lei? Scusi, glielo chiedo, ma... Ma io ho 43, ma ne dimostro molto meno, come avete visto dalle foto. Beh, non diciamo che le foto sono abbastanza chiare, una bella ragazza, bionda di... Bionda, grazie, alta, slanciata, grazie alta. Grazie ai chirurghi, quindi ecco, ringraziamo tutti. Ma quante operazioni ha fatto, signor Bernaroli? Ma ne ho fatto una decina, sempre accompagnata da mia moglie, quindi grande sostegno e grande abilità, insomma, di questi professionisti. Dieci operazioni, deve essere stata mia moglie. Tutto all'estero a mie spese, quindi lo Stato italiano è tranquillo con me, non spende nulla. Ecco, però, Alessandra, ci diamo del tu. Io dico una cosa, sì, ma ci deve essere stata una volontà pazzesca, perché dieci operazioni è una cosa durissima, dieci operazioni per cambiare sesso, per trasformarsi, per diventare una vera e propria donna. Cioè, ci deve essere stata da parte tua una volontà veramente molto forte per diventare donna, o no? Ma certo, da parte mia, come da parte di tutte noi persone transessuali, non è, come giustamente dite, non è una scelta come fosse un capriccio o un desiderio, è veramente una forza interiore, una esigenza irrinunciabile, e questo ti porta a superare ogni difficoltà, è proprio quel coraggio che ti viene dal fatto che è l'unica tua possibilità questa, o fai queste operazioni oppure non esisti più. Beh, o non esisti più, tu potevi tranquillamente rimanere uomo, però evidentemente non ti sentivi in quel corpo. Cos'è che provavi quando avevi, diciamo? Ma certo, ma è un disagio che ha a che fare un po' con la sensazione di benessere, proprio con la, comunque la definizione è la propria identità di genere, quindi non si appartiene al genere in cui si è nati e si viene collocati, e quindi non è solo un desiderio o un capriccio, è proprio una forza interiore. E tu non puoi resistere. Ma quando è che c'è stato, diciamo, come dire, l'atto, diciamo, più grave, che quello, insomma, del più grave, come dire, per più lei grave, più bello. Forte. Grave. No, beh, ho capito, a me, io se ci penso mi sento male. Abbi pazienza, Parenzo, scusami. Beh, io no, capito. No, io no, cioè, tu hai detto più grave per lei, no, un più grave, atto determinante. Ma non grave nel senso, cioè, più traumatico, voglio dire, perché poi alla fine di quello si tratta, soprattutto, o no? Cioè, quello di, come dire, il famoso, quello che in gergo, scusi se uso questa parola molto molto cruda, diciamo, no? Il famoso taglio del pisello, ecco. Tanto per essere che non è così, certamente. Non si taglia niente, non si butta via niente. Ma in che senso non si butta via niente? Scusami, si riutilizza tutto. Quindi... Ma in che senso si riutilizza tutto? Scusami, adesso non è che abbiamo il tempo di spiegarlo. No, comunque... abbiamo il tempo. Che vuol dire si utilizza tutto? Si riutilizza, cioè, che cos'è che viene riutilizzato? Scusami, l'operazione, tutti lei dice. Tutti l'operazione, tessuti. Il chirurgo riutilizza tutti i tessuti e non li butta via assolutamente niente, quindi rimane tutto trasformato. Ecco, ma l'operazione definitiva lì sul pene, diciamo, sì, quando c'è stata? c'è stato nel 2008, però non è un trauma come dite, perché in realtà essendo proprio un'esigenza è un qualche cosa, una liberazione, quando si esce non è una liberazione, è la cosa più naturale che possa esistere, cioè ci si guarda, sì, e si dice ma io sono sempre stata così, cioè c'è proprio questa sensazione, trovare finalmente la soluzione giusta, quindi non è un, cioè, quando tu ti vedevi, quando tu ti vedevi con quando tu è un benessere, certo, quando tu ti vedevi con il pene, diciamo, chiamiamolo così, ma non è solo il pene, è proprio tutto l'aspetto del corpo, quindi la barba, i muscoli, la voce, cioè certo, è tutto che non funziona, non è solo questo. Ma come, sì, perché tu hai la voce, la tua voce è cambiata? Certo, ho fatto un intervento sperimentale negli Stati Uniti. No, no, gli ormoni non funzionano. No, no, niente. Un'altra cosa, Parenzo, non sai tu che ne sai. Ho fatto un intervento sperimentale negli Stati Uniti, veramente. Per la voce. Allora, certo. Bisogna dire agli ascoltatori di Radio 24 della Zanzara che la moglie di Alessandro Bernaroli, che è diventata Alessandra Bernaroli, sì, è stata, come dire, d'accordo sempre su, o no? O c'era qualche incertezza prima? Qualche incertezza, diciamo che agli inizi anche lei ha cercato, cioè, quando di gliel'hai capire... detto, quando gliel'hai detto a tua moglie, come l'ha presa all'inizio? Beh, all'inizio non è che fosse subito proprio entusiasta, certamente ha cercato però di non farsi travolgere, come dire, dall'isterismo, e ha cercato di capire quali fossero le ragioni, quali fossero le motivazioni. Ecco, ma non manca a tua moglie quello che succedeva prima? Diciamo la verità, scusami se ti faccio questa domanda molto diretta. Perché io sono una persona così simpatica, così intelligente, così, no, però così io parlavo che tutto quello che c'era prima è rimasto. No, ti, però... ha risposto, ti ha risposto, dice così vivace che non è che fanno altro, questo ti, no, ha detto, vivace nel senso che poi si sostituisce quello che c'era prima con altre cose, dici tu. Ma voglio dire, questo non lo so, bisognerebbe chiederlo anche a lei, però il punto è un altro, che in tante coppie ci sono, avvengono delle modifiche nel corso della vita. Beh, questo proprio questa però no, questa no, il fatto di uno scioglimento automatico, voglio dire, pensiamo a un incidente grave, e allora, vuol dire, questo motivo sciogliamo il matrimonio tranquillamente. Adesso andiamo, no, sul matrimonio, torniamo con il matrimonio adesso dopo la borsa. No, voglio dire una cosa, però, c'è la signora, borsa però. Alessandra, sì, Bernaroli, che con grande coraggio è venuta anche a parlare di queste cose, parla apertamente, come vedete, anche scherzando e ridendo, dopo aver passato sicuramente dei momenti più gravi, ha fatto diverse operazioni, è diventata donna, vuole rimanere sposata con la moglie. Eccoci qui, Alessandra Bernaroli, già Alessandro, bancaria. Tua moglie che cosa fa, Alessandra, di mestiere? Ah, mia moglie è attualmente casalinga, in cerca di occupazione, diciamo. Casalinga come in cerca. Tanti. Senti, come ma quando tanti. Sei andata al comune, al comune a chiedere una nuova carta d'identità, cosa ti hanno detto? Non me la volevano dare. Il comune di Bologna è uno dei più, come dire, all'avanguardia per i diritti, non me la voleva dare e aspettava il mio divorzio. Io ho detto, ma scusi, quale divorzio? Scusi. Cioè, perché in teoria qui, vabbè, voi avete fatto, avete iniziato una specie di causa, chiamiamola così, insomma, per... Aspetto la sentenza della Corte Costituzionale, sì, se non sbaglio. No, della Cassazione, adesso non mi ricordo bene. Comunque non è importante adesso tutta la procedura. La cosa fondamentale è questa, che voi volete che il matrimonio sia confermato. Invece la legge italiana direbbe che in realtà il matrimonio decade per il fatto che tu hai cambiato sesso, no? Ma la legge non è chiara, infatti la Cassazione era talmente incerta che si è rivolta alla Corte Costituzionale. Noi siamo in attesa, quindi entrambe queste corti così importanti. Però molti dicono, se uno ha fatto un'operazione, si è tolti i genitali maschili, chiamiamoli così, si è tagliato l'uccello, come abbiamo detto ieri, in maniera gergale, in maniera molto forte, per far capire alle persone, lo posso dire perché tu sei una persona di mondo, ma uno non è che può pretendere che il matrimonio resti in campo, o no? Per quale ragione? Non capisco. Intanto, tanto per cominciare, noi ci siamo sposati anche in chiesa, e per la chiesa dovete sapere che per il diritto canonico il nostro matrimonio è ancora valido. Questo e poi è voglio dire, no, perché non lo sanno forse? Perché non lo sanno forse? No, lo sanno, c'è la dichiarazione del vescovo, del vicario del vescovo di Bologna. Cioè, per la chiesa voi siete sposati regolari? Certo. No? Noi siamo sposate validamente, perché non cambiano il nome e noi siamo appunto, però voglio perché dire, la chiesa non riconosce il suo passaggio, diciamo, di no, sesso. Cosa c'entra? Però io il passaggio l'ho comunque fatto. Allora, se io cioè qual è il problema? Il nome sulla carta d'identità, allora io non lo cambio e il discorso è questo. Però voglio dire un'altra cosa, se il nostro matrimonio era valido fino a ieri e noi siamo le stesse persone, che cosa è cambiato? C'è stato, beh, è cambiato che sei diventata donna, no, scusami. C'è stato un intervento chirurgico, allora questo è l'unico intervento chirurgico, cioè non è un'appendicite, non è un intervento cardiaco, però è l'unico intervento chirurgico che scioglie un matrimonio, una cosa un po' strana. Però, scusami, questo è interessante. No, però, questo è vero, però io faccio un po' l'avvocato del diavolo, io sono dalla parte tua, matrimonio tutta la vita, se voi volete continuare a essere sposati va benissimo, sono dalla parte tua tutta la vita, questo sicuro, però faccio l'avvocato del diavolo. Se mia moglie dicesse ok, io non ti voglio più vedere, allora ok, siamo d'accordo, ma il fatto è che lei vuole rimanere sposata. Ecco, ma come si fa? Cioè, come si fa? Perché lei vuole rimanere? Cioè, ma perché la ama? No, ma io voglio capire una cosa, è stato difficile accettare sicuramente, però prima c'era un certo tipo di rapporto anche dal punto di vista sessuale. Adesso, Alessandra, bisogna dire la verità, dal punto di vista sessuale c'era quella che si chiama la penetrazione tra due persone. Adesso come si fa? Cioè, A parte che i rapporti tra persone possono avere mille variazioni, ma siete giovani. Alessandra, gli faccia un disegnino, no, perché Cruciani mica ha capito. Ma voglio dire un'altra cosa. Gli faccia un disegno. Ragione, però quando ci si sposa 20 anni e si arriva a 90 anni, voglio dire, io presumo che non si faccia tutto questo sesso, magari sono in sedia. Beh, ok, ma mica c'hai 90 anni tu, no? Non hai 90 anni però. Ma io non ho 90 anni, però questo esempio, quando hanno 70, 80, e allora non è che venga sciolto automaticamente questo matrimonio, allora perché nel nostro caso sì? Così ma no, ma io la cosa del sesso non... stiamo parlando della logica. No, ma la cosa del sesso era per capire come si fa ad accettare il fatto che si passi da un certo tipo di rapporto, da un certo tipo di rapporto che comprende ovviamente la penetrazione, ad un altro che non facciamo un esempio un po' più serio. Quando ci sono degli incidenti anche gravi, quando le persone rimangono immobili a letto per tutta la vita, allora il matrimonio viene sciolto? Io penso di no, anche se sono in giovane età. Allora qui rimane il fatto. Beh, però tu hai cambiato sesso, è diverso, rispetto a un incidente. Rispetto a un incidente hai cambiato. Se noi siamo insieme da quasi 20 anni, abbiamo un progetto di vita insieme che riguarda tantissimi aspetti, per quale ragione un burocrate comunale deve venire a obbligarci a distruggere una famiglia? Ma le famiglie sono la base. No, ma questo, perché no? Ma io sono d'accordo, sono da questo punto di vista sono d'accordo. Ma pensiamo, se voi avevate un figlio, no? Cioè, ma non l'abbiamo, non è che possiamo. Ma lo vuoi avere? Lo vorresti adottare un figlio? No, adottare, perché adottare? No, noi non vogliamo adottare i figli, non vogliamo creare problemi a nessuno, ne abbiamo già abbastanza per il nostro conto. Ma sei favorevole all'adozione? Non c'entra niente, perché noi stiamo parlando di questo caso, non dobbiamo divagare. Infatti anche il ricorso contro di noi, il Renzi, questo grande innovatore, il Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè l'avvocatura dello Stato, in realtà l'avvocatura dello Stato, il nome per conto del Presidente del Consiglio c'è scritto. Beh, ma non... così sì. Ha fatto un doppio ricorso, quindi ha aggiunto quello del governo precedente il suo. E quindi Renzi contro di noi, questo grande innovatore, e cosa ci dice? Ci dice: siccome voi siete una coppia omosessuale non dovete esistere. Ma noi intanto, per iniziare, non siamo una coppia omosessuale, il nostro matrimonio era validissimo, e quindi se noi siamo sempre noi, io questo non è accettabile. Non ho trovato nessuna motivazione reale, anche nei paragoni che alcuni ve li ho capito fatto, ho capito perfettamente, rispetto alle altre coppie. Quindi non vi siete affidati all'avvocato Taormina, voi nella difesa presso in Europa. Cioè, tutto questo è pura normalità. Beh, non lo so, adesso non è che saranno molti. Paghiamo solo le tasse in Europa. No, ma è proprio così, In tutta Europa, casi anche come il nostro, sebbene rari, sono già stati decisi a favore della coppia. Del mantenimento del matrimonio. Bene, del mantenimento. Va bene, Alessandra. Paghiamo solo le tasse. No, siamo con voi, siamo con voi. Mi raccomando, mantenete il matrimonio per questa coppia, assolutamente. Che... Adesso uno può dire tante cose, però, ma se a un certo punto uno ha cambiato sesso, è una storia d'amore bellissima, e uno vuole restare sposato, e restassero sposati, non rompetegli i coglioni. Giusto, no? Poi siete giovani e non so come tua moglie fa a sopportare ancora il fatto di non avere, di non fare sesso di non fare sesso come una volta. Questo non lo posso, questo non riesco. Ma sei fissato. Ma sono fissato perché per me sarebbe complicato. Ma per te è complicato anche adesso che hai due ore che sei in uno studio perché sei malato. Ma la gente normale non è così. Allora, sarà pure complicato un po', Alessandra. Adesso possiamo parlare anche tranquillamente. Se volete passare da casa nostra, magari io esco, vado al bar e proverete. No, per carità. No, non lo so, dico verificare le persone. No. Ah, tu dici che in questo caso sia ovvio attraverso questa cosa che tua moglie potrebbe anche no. Dico, non lo so, dico, siccome avete dubbi. No, per carità. Ciao Alessandra, ciao. Saluti. Ciao. Grande. Sante da Ravenna, sante. Scusi. Sì, dimmi. Quel signore che parlava è il marito o la moglie della coppia? Ma adesso non è arrivato, Sante, è arrivato. Scusi, non ho sentito l'inizio, è il marito o la moglie? Era il marito, è diventata la moglie. Ma cosa vuoi che fosse il marito? Già era donna prima che si sfamassia, gentile. Mi meraviglio di lei che capisse tante cose. Su. Qual è il problema? Allora, qual è il problema? Non ho capito. Sante, non ho capito. Qual è il problema? Non possono rimanere sposati perché uno si è tagliato l'uccello? Non possono fare quello che vogliono, che a me non interessa niente. Presente, avete durato un quarto d'ora con delle cagate. Parliamo un attimo del suo socio. Sì, Parenzo, sì. Sì. Il signor Sante. Devo fare attaccare la scabbia a mio figlio, la tubercolosi, che ha 20 anni. Io gli auguro che venga la scabbia e la tubercolosi ai suoi figli. Grazie. Prego, Sante. Guardi, per carità, per Parenzo, eh? Il suo nome mi ricorda la canzone di De Gregori, quindi sì, non posso neanche attaccarla. Io conosco bene De Gregori, non si Girardengo voglio e Sante Pollastri. Sì, voglio andare avanti. Faccio Sante Pollastri, lei. Lei Sante Pollastri. Oggi la commemorazione di Berlinguer. Certo che sono andato, 30 anni dalla morte di Berlinguer. Sa cosa le devo dire? Lei è Sante Pollastri, guardi. Ha ucciso Moro. Perché? Quando era il momento di scegliere, lui ha detto no. Lui era per la linea della fermezza. Non ho finito di dire stupidaggini, non hai detto abbastanza in 30 secondi. Ma io non sono di quelli che santifica Berlinguer, tutt'altro. Nessuno io santificare. Ha commesso errori enormi dal punto di vista politico, errori enormi dal punto di vista politico. Vabbè, ma questo è il mio giudizio. Quando averlo fatto. Vabbè ragazzi, però non possiamo parlare di cose di 40 anni fa. Sante, ciao. Antonietta, provincia di Massa, dai, non è che possiamo parlare di Berlinguer oggi, dai. Antonietta, beh, provincia di Massa, anni dalla ma morte, non me ne frega niente, non possiamo parlare di Berlinguer, è tutto finito, invece. Dai, un'altra epoca, finito, c'è l'iPad, perché c'è l'iPad qui, c'è l'iPad, c'erano invece persone vere in piazza a ricordare Enrico, c'è l'iPad, dai, su, Antonietta, provincia di Massa, dai, quel paese, l'iPad. Pronto? Dimmi Antonietta, dimmi. Allora, carissimi, finalmente avete trovato qualcuno che ha avuto il coraggio di dirvi che nella vita non si vive solo di atti sessuali. Cioè? Ma si può vivere anche la purezza, a quanto pare, no? Sì, brava, vabbè, giusto. Antonio, sì, d'accordo, però a un certo punto a 40 anni si deve trombare, su, dai, diciamola tutta. Dai. La tromba è un buon strumento. Ma non bisogna usarlo troppo, perché dopo stona. E vabbè, quello è un altro discorso. Se un calciatore, le faccio un esempio, se un calciatore riceve una pallonata in quel posto che voi avete, perché sono donna, e grazie qui a Dio è diverso, che c'entra? Quei gioielli che avete voi, cosa succede? La moglie deve andare a trovarsi su un pollo perché l'altro... Ma che gioiello, che abbiamo noi gioielli? Che abbiamo? Giusta ragione. Che abbiamo noi gioielli? Che abbiamo? I gioielli che avete. Ma abbiamo gioielli noi? Ma no, è intende... certo che avete gioielli. Si chiamano gioielli quelli che avete in mezzo alle gambe, scusi. Gioielli, vabbè, dipende, gioielli. Qualcuno li considera gioielli, altri no. Vabbè, una pallonata lì, non ci vogliono 10 operazioni per toglierle, Vabbè, Antonietta, quindi lei ha ragione, dice quando è fuori uso quell'azienda lì, non è che finisce l'amore quando quell'azienda non ha ragione. Si amano. Certo. Tra due persone che si amano, che si fa? Dunque? Ma lui non sa, è una scimmia, non sa di cosa stiamo parlando, dell'amore. Sì, adesso Parenzo vuole far passare. Lo sa benissimo, solo che Martella lo sa benissimo perché ha una figlia. Martella, pronto? Pronto? Pronto, chi parla? Barnard? Paolo Barnard? Sì, chi parla? Cruciani, Barnard, Cruciani da Zanzara, ciao. Ciao Paolo. Come stai? Barnard, Siamo meraviglia, meraviglia stiamo. Adesso puoi sentire, noi stiamo ancora meglio. Scusa Barnard, un attimo, ma manca Sir Barnard, mancava che recentemente è tornato alla gabbia. Sì. Ma ho letto delle cose su Twitter, Paolo, che hai scritto recentemente sui giornalisti. I miei colleghi giornalisti tutti muti come cefali con un palo nel culo. Perché sono i servi tecnocrati delle banche, vampiri, associazioni a delinquere che provocano solo distruzione, disperazione e disgregazione, ok? Ma parliamo della politica economica di Renzi, va, cambiamo argomento. La politica di Renzi è antiparlamentare, anticostituzionale e antidemocratica. Ma che vuol dire, scusa? È stato votato da un sacco di gente, Renzi. I milioni di italiani che hanno votato il PD alle europee si sono sparati sui piedi, ok? Perché votare PD vuol dire votare austerità, economicidio, chemiotassazione. E la Merkel ha lavorato per tutta la sua carriera per distruggere la piccola media azienda italiana. E questo è agghiacciante. No, però scusa Paolo, scusa, vabbè. Vuole sempre... questo è grande, sto professore. Sei sempre d'accordo con l'uscita dall'euro, eccetera, no? Immagino. No. Assolutamente, perché tutto ciò è agghiacciante, porta alla più grande catastrofe transnazionale di tempi moderni. Ma c'è una cosa la peggiore rovina economica dall'Italia dal 1948. Ma ci sarà, okay? Ma non sarai troppo, cioè, ci sarà una cosa, cioè, non è che la gente muore per strada, c'è una cosa che funziona in Italia, no? Una cosa. In realtà noi dobbiamo fare una cosa, la prima cosa da fare assolutamente è non emettere titoli di Stato, ok? Questo è il primo passo, sei uno di quei giornalisti servi del potere, questo è il primo passo per uscire dall'euro. Ma perché? Perché passo, noi lasciatemi parlare, mi avete telefonato, adesso dovete lasciarmi parlare. Ci troviamo, attenzione, in una condizione di gol finanziario provocato dai tecnocrati delle banche vampiri, ma l'abbiamo già detto, banche dove vampiri. L'eurozona ha introdotto una moneta che toglie lo Stato italiano, niente. Il portafoglio, la carta di credito, il banco, il libretto degli assegni, conto in banca, ok? Ah, lo Stato italiano. Perché alla fine della giornata? E allora? Come allora? Tutto ciò è antiparlamentare, anticostituzionale ed antidemocratico. Professor Barnard, grazie, arrivederci. Grazie. Vabbè, è impazzito. Valentino da Brindisi, Valentino tutto, da Brindisi. Dai, chiudi la baracca. No, aspetta, adesso chiudo tutto. Chiudi Fabio, sta baracca, no, no, Valentino, dai. Domani dai. Fabio, basta, da Palermo. Fabio da Palermo. Ciao a tutti, arrivederci. Fabio grazie. Palermo, aspetta. Fai dire una parola a Fabio da Palermo. No, Fabio. Mi interessa niente. Ehi, salve. Dimmi, Fabio. E niente, no, soltanto un dubbio, purtroppo mi è saltato il canale, quindi non so se questa ma cosa quale è stata canale? Detta. Dai Fabio, veloce che dobbiamo chiudere, su. Sì, scusa, mi facevo venire soltanto un dubbio relativamente alla signora lì che ha cambiato sesso. Sì. Ma se da donna è diventata, se da uomo è diventata donna perché gli piacciono gli uomini, che si fa restare in un matrimonio con una donna? Solo questo era. No, è diventata dubbio. Donna probabilmente perché così, perché non si trova in quel corpo, non so, questo non gliel'ho chiesto effettivamente, va. Era solo questa la mia domanda. Cioè, ve lo dovevo chiedere, ma a lei piacciono gli uomini? Cioè, piacciono quelli con l'uccello, diciamo, per andare a capire. La domanda è questa. Bravo Fabio, lo so, però non ci ho pensato. A domani. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. E arriva Parenzo a dire le stronzate. Radio 24. La passione si sente.